veramente cavarlo. Già mi metto di inferno e me la fare, va. Ma come, un di poco, come si fa? Cazzo, ne faccio un ritardo, fate un ultimo. No, non va bene il di poco qua. E metti l'antenna come si deve, no? Ma non posso entrare sul tetto, è quello il discorso, se no mi avrei piazzato la mantova. Mi sembra che a 12 metri di altezza in campagna, capito? Se entro la campagna spacco il culo a tutti. Tutti forti. Qua non posso fare niente, purtroppo. Guarda che ce l'ho in facciata a quest'antennino, mi è una canna da pesca che l'ho fatto io. E pesca? Vedo che sta pescando, gli ha attaccato l'amo. Vedi che sta andando bene, non ti lamentare, già sta andando bene. Ora c'è troppo stazionario, non va bene. Buttali giù. Sembra facile, ma non è. È un pezzo di filo. Ti accorda? Forse devi accordare, va raccoglio. Quando raccoglio la buccia in zero vuol dire funzionare. Allora, metto un accordatore e fatto un bingo. No, non è così semplice la cosa, è un po' come un'antenna di questo tipo. Diciamo un accordatore accordi al tuo lampione. Vabbè. O magari non risuona, però. E poi te non lo mangia tutto l'accordatore, la potenza sta erogando. E mi leggerà la stazionaria. Già, e se è basso. E allora lavora sull'antenna. Ma vi dimenticate sempre una cosa. Si può accordare tutto quello che vuoi, ma un'antenna del genere sono 300 ohm. Se non c'hai un bang 4-1, accordi, ma è per dispersione, basta. E poi bisogna metterlo subito dopo l'antenna, un accordatore remotato. Allora cominciamo a cambiare idea. E poi metterci un po' di contrappesi. Sono d'accordo. Infatti il contrappeso manca. E più di uno. Te li fai un quarto d'onda, 2 metri, quanto è? 2,60 metri, o 2,54 metri se mi ricordo. Ne metti almeno 4, 5, 10, più ne metti meglio è, e cominci già magari a migliorare la situazione, allora forse vai meglio. Però ci vorrebbe un bel 4-1 almeno. Rosso. No, se vado bene mi metto io come contrappeso, 85 kg vado bene. Io vanno bene, perché ho le braccia aperte. Bene, va bene, allora farò quello lì, buongiorno, buonasera a tutti. Buonasera. Là io vado a mangiare, che ho fame, Ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti. Massimiliano Archimede, scusate dell'intromissione così violenta. Ciao Massimiliano, ma perché stai ancora mangiando? C'è ancora il vizio? Ho cercato di toglierlo, ma non fa. E allora, sto andando da un medico a vedere poi se riesce a togliere questo vizio, ma non ci riesce. Vado che ho fame. A dopo, buona cena a tutti. Ciao. Panni. Narami, buonasera, Forbi. Allora, ce la facciamo a farla risuonare questa antenna? Quale? La mia risuona già. Di Natalino. Sì, bisogna fare subito qualcosa per dire un 5, veloce, perché oggi è andato uno e gli ha detto che praticamente non chiama i carabinieri, perché vi sta entrando da tutte le parti, che vi ha rovinato il televisore, che gli ha rotto il televisore con la sua antenna, e tu può vi ringraziare. Ma sicuramente quell'antenna, essendo costruita così, magari può dare dei disturbi, non lo so. Io sto dicendo già, io sono disponibile, io ho un arrivo sul tetto, smontata, se vogliono smontare un altro, la dividiamo in due, quante 5 metri, 2 metri e mezzo, se la carica in macchina, io avrei la chiamata che farlo, un tubo se la porta via e si monta, se poi gli servono delle tappe particolari, come lui stava dicendo, che andiamo con Antonello, io me lo studio, me ne scendo in garage, tiro fuori un po' di materiale, 4 punti sono a tuo e 2 giri al torno perché gli faccio quello che gli serve, capito? Infatti se pagate da lui si decida, perché se no io gli ho detto guarda, c'è la concessione, c'è tutte le settimane dei carabinieri, trovi la concessione e tutto e basta, e non deve avere paura. Lui, l'importante è che lui abbia fatto il versamento, quando io dicevo, se adesso me lo ricordo, ha fatto quel versamento, lui c'è la concessione, boh, non si faccia trovare affariti strani, niente di niente, e lui ha posto. E poi voglio dire, per migliorarlo, io ho detto, sono una settimana che glielo ho detto questa storia qua. Vengo, vengo, adesso domani devo scendere a Cagliari, però voglio dire, poi la prossima settimana sono scarico un po' dal lavoro, no? E che è un problema, una mattina sei libero, porto i bambini a scuola, andiamo, lo vediamo e glielo risolviamo questo problema. Tanto un po' di cavo, un po' di tutto ce l'ho, dai. Allora, vogliamo fare una cosa fatta bene, Toglia, così divulghiamo un po' come sono le cose, magari qualcuno ci lascia in pace la testa a noi poveri amatori della radio. Facciamo qualsiasi buon consiglio con accetto. Allora questa qua, quella di andare a prendere un giornalista della Nuova. Spogliatemi un caso, fagli vedere Palazzo Reggio in modo che ci faccia un articolo per salvaguardare quello che sono gli amatori della radio, CB, piuttosto che rilevatori e quant'altro. E quello che realmente possono dare il servizio radio in caso di calamità, come è successo all'Aquila, come sta succedendo a Genova, e in caso di mancanza di Tacciano, di metterla in una certa posizione, in modo che venga fatto un bel articolo sul giornale, in modo che chi è ignorante in materia venga portato a conoscenza di piante logiche, che esiste un diritto all'antenna, che chi ha posto con la documentazione non deve essere disturbato e quant'altro. Potrebbe essere un'idea. Sì, io sono d'accordo, ma soprattutto faccio una chiacchierata, che per più meno male qua c'è molta gente che gli può spiegare, poi tu sei abbastanza addentro ancora di più di molti altri, e gli si spiega in quattro parole il problema, che uno ha il diritto di trasmettere, l'altro il diritto di ricevere, però molte volte quando ricevi anche tu hai un impianto, come io lo devo avere a norma perfettiva, anche tu devi avere un norma, quindi poi c'è anche la colpa ovviamente di chi sta ricevendo, di chi sta prendendo disturbi, che magari il suo impianto, il suo telefono, e poi tecnicamente con due parole spiegare un articolo per fare anche capire che non è sempre colpa di chi trasmette, capito? Anche tu che tecnicamente sei più il tuo lavoro, fatta due parole, fatto un bell'articolo anche spiegando i punti di legge, quello che puoi fare, quello che anche può fare chi viene disturbato, il perché viene disturbato, eccetera eccetera, capito? Bisognerebbe fare una sorta di piccolo consorzio tra CB e fare questa, diciamo, questa citazione tramite il giornale. Secondo me potrebbe dare una buona mano d'aiuto e forse qualcuno avrebbe qualche problema in meno. Poi dopo cena vi do informazioni sui preamplificatori di antenna, TV e sui vari controlli. Ho parlato con una persona che ci lavora dentro. A dopo, buona cena a tutti. Ok, ci sentiamo dopo, se non me vado a letto prima, perché di qualche cosa sono curioso. Ecco. Avanti. Fabrizio Massimiliano. Gianni Doppio Rumse. Sì. Ciao già. Scusatemi un attimino, volevo chiedervi una cosa. Ho avuto lo stesso problema che hai avuto tu al Proxel. Sì. Qualcosa con l'alimentatore. Si è spento di colpo, pum, non si sa cosa abbia. Ah, staccalo dalla spina, staccalo dalla spina e lascialo un po' staccata. Poi distacca tutti quanti i carichi, freccia e lo riaccendi dopo un po'. Quanto? Lascia 10 minuti, un quarto d'ora, dai, poi lo riaccendi. Sì, basta di meno, mi fanno per caricare i condensatori. Cosa può essere successo? È andato in protezione, probabilmente ha fatto una fessina per farlo andare in protezione. Ah, no, perché c'era 140, non so come stai facendo, era in ascolto. A un certo punto sento che si è spento, ma ho detto non c'è la radio, invece proprio si è spenta la mascherina, si è spento tutto. Prova a fare così, stacca tutto e lo attacchi fra un paio di minuti. Hai sentito il discorso comunque di Archimede? La copertura. Oh, alto. Ammazzate quella televisione, hai sentito il... di coinvolgere un giornalista e far uscire un articolo sulla nuova, spiegando i diritti che hanno i CB, i diritti che hanno gli OM, i diritti che hanno chi ha la televisione, con gli articoli di legge dove spiega che si possono montare le antenne, nessuno lo può proibire, lo stesso chi ha gli apparati riceventi le televisioni non deve essere disturbato, però se molte volte viene disturbato può dipendere anche dalla televisione, da quello, da quell'altro, spiegando tecnicamente e mettendo a conoscenza diciamo la cittadinanza con un articolo che la nuova meno male letta da tutti i sassaresi. Se voi faccio un abbozzo di articolo, perché loro lo vogliono un abbozzo, dopodiché loro lo correggono, quindi posso al limite fare un abbozzo di articolo, dopodiché vedo un attimino. Sì, ma poi intanto entra Archimede che si è studiato un po' la storia degli amplificatori dopo cena, io spero di riuscire a rimanere in piedi perché mi interessa l'argomento, magari gliene parli, perché anche lui mi piacerebbe le due cose tecnicamente, le spiegasse con gli articoli di legge che, e con due spiegazioni semplici e concise sui problemi tecnici che possono dare, capito che lui è più addentro, sarebbe il caso di fare una cosa del genere, se si conosce qualcuno cercare di far uscire questo articolo. No, quello non è davvero un problema, la cosa l'articolo te lo fanno uscire quando è un buco libero. Ah beh, che esca domani o fra un mese non è un problema. Ma entro la settimana diciamo, dai, ti ricordi che io mi lanciavo e adesso c'è l'articolo perché mi avevano e alla fine poi hanno procrastinato per una settimana. Sì, me lo ricordo. Non c'è problema, lo facciamo e può fare, cioè in effetti guarda, sensibilizzare le persone per evitare che ti rompano le spalle è una cosa positiva. Hai capito Gianni, quindi stessa cosa. Sì, quindi stanno picchiando i bambini, sì. Avanti, Gianni. Sì, per me sono d'accordo. Solo che... Vabbè, tutti quanti dovremmo fare il mio accordo. Però, visto che non siamo molti, facciamo nomi, cognomi e indirizzo e piano dove abita ognuno. Nessun problema. Avanti, Brecco. Qui dalla parte di Fabrizio Piligatto da Sassari, io ti ascolto, non sono gli altri, vieni avanti con lui attivo. Aspetta, io purtroppo ti ascolto senza problemi, ma c'è bambini che si stanno picchiando e non rivieni avanti, dimmi nominativo, dai, che poi ti faccio girare. Ah, ciao Sandro, non ti avevo riconosciuto, perché stai scendendo più basso oggi? Ok, senti a 8, 9, mezzo al QM, però c'hai una radio bassina che se avessi avuto una radio bella spinta ti avrei sentito bene. Allora ti rilancio doppio room, vediamo, avanti doppio room per Sandro Conan di Alghero. Io ma non capisco cosa dice, strano, perché Sandro io di solito lo sentivo tranquillamente. Cosa è successo, Sandro? Cosa è successo che non ti sento più come si deve? Non riesco proprio a capire cosa dice, sento che sta parlando ma non capisco cosa dice. Puoi farmi una parte? Sì, ha detto che sta riparando un apparecchio e quindi sta facendo delle prove e sta uscendo liscio, ma io l'ascolto bene senza nessun problema. Probabilmente per te è vicino come libera la zona. E io con Claudio l'ascoltiamo bene a Conan, più o meno arriviamo con lo stesso segnale. E lo ascoltiamo bene, ma l'altra volta abbiamo fatto un bel QSO e più o meno eravamo lì, deve essere la posizione favorevole per noi. Poi adesso come ho tirato sull'antenna ancora meglio. Vediamo un attimino il Grode se l'ascolta, avanti Grode. Forse l'ascolto più rumo. Sento che sta modulando ma non lo copio. Fai una cosa, ringrazialo perché da parte mia per le idee mi ha mandato un po' di materiale per modifiche varie. Ti ringrazio il Grosser perché per le mail che gli hai mandato tu quel materiale, però lui non ti ascolta, ti sente in mezzo al QRM. Avanti D'Alghero. Aspetta un po'. Dovrei aver migliorato un pochino. Sì, in effetti un pochino. Io per me c'è Santiago 9, radio comprensibilissimo, io ti ascolto non benissimo, senza nessun problema. Adesso l'ascolti un po'. Ma non so se mi ascolta lui, ciao Sandro. Sì, io lo sento tanto. Però riesco a tirarlo fuori, adesso che non c'è QRM. Oh Sandro, non è un controllino invece a me, in questo passaggio qua, che poi voglio provare, vabbè ma sono verifichi positivi, comunque dammi un controllino adesso. Santiago 6, picchi positivi a 8. Aspetta. Per esempio, guarda adesso invece cosa è successo. Santiago 7 fisso, non arrivi a 8 e c'è stato un attimo quando hai detto ma adesso. Allora facciamo così, sì, aspetta. Ok, dai, così va bene, così esco con gli oggivati e tutti i picchi positivi che magari disturbo di meno se dovessi disturbare. Va bene, ascolta, io non ho problemi per ascoltarti, vediamo adesso che ti sei sollevato un po' se ti sente doppio room. Avanti, doppio room. Perché con la poesia che usava subitamente lo sentivo anche bene. sicuro Gianni che non mi tiri fuori. Adesso sì, adesso mi sto tirando fuori perché non ci vorrei. Però quando sale qua me metti in coppo. Ah, cavolo. Deve essere che proprio fa... Poi in questo periodo c'è un rientro, fra sempre in FM, una passata di gente dell'est. Adesso c'è Santiago, sente facendo rumori di tutti i generi, dai. È quello che ci tappa, non è questa videoricezione, non è, dipende da te, ma dipende molto da quello che c'è nell'aria, e qua c'è molto QRM, quindi è il problema è quello. Solitamente il QRM è zero per me, adesso oggi l'ha presa così. Oggi gli ha preso male. mi dispiace che Antonio non lo sento perché mi solleva appena l'indicatore qua, ma non riesco a tirare fuori, capisco quando parla ma non sento quello che dice purtroppo. No? Se il materiale c'è si condivide anche molto volentieri senza problemi. Dimmi come è partito il PC. Se puoi rientrare nella cassiera del PC. Ah, vai padre. Adesso che mi sento bene, che sento con Santiago di sé, adesso vai, cosa hai fatto? Ha attaccato qualcosa? Adesso ho ripreso la stazione LPL con annesso 131, che è la stazione che uso di solito, va prevalentemente uso questa. No, prima stavo, siccome ho smanettato su uno string seed, gli stavo facendo tutto il riassetto e lì avevo un'antenna diretta senza niente, quindi solo in base dell'apparato arrivo poco. Ah, ecco. No, beh, adesso non ti ascolto bene, perché non c'è lì che là. Non posso dirti nulla. Adesso sì, adesso va bene. No, lì ho fatto la modifica dei 120, posteriore, frontale, il colore del display, stavo personalizzando un po', ho aperto un pellino in ricezione che era un pochino sordo, e ho eliminato un filtro, ho aggiunto la bobina e adesso devo giocare un pochino con la modulazione, però sempre lasciando finali originali e modulatore originale. Adesso lo tiriamo un po' su. Richiede l'apparecchio tuo personale o è quello che stai facendo a pagamento? Questa cosa? Questo apparecchio che stai modificata. Ah, no, è diventato mio. È diventato mio e quindi me lo personalizzo. Me lo personalizzo perché mi piace giocarci. Su quello degli altri non ci si gioca, sulle cose mie se mi rimane in mano è roba mia. Beh, lo ascolteremo allora adesso. Lo ascolteremo come va. Avanti Fabio. Oh, qui comunque non c'è problema, qui sta arrivando sempre bene, io qui gliel'ho detto io a Sandro, lo ascolto molto bene da qua senza problemi, quindi non c'è problema. Ma adesso stai usando quell'apparecchio modificato, sa? No, sto usando il President, il Lincoln mio. Quello ce l'ho sull'altra antenna e mi viene un po' male da passarlo qua. E lì c'ho l'antenna diretta senza amplificatore, c'è solo il rosmetro, giusto perché quando faccio quelle prove se succede qualcosa deve esserci lui e l'antenna, al massimo un rosmetrino così per controllare qualcosa. Poi quando sono sicuro che è perfetto allora lo collego qua in stazione. Ho capito, no, vabbè, come sempre, sto arrivando benissimo qua, senza nessun problema, pur io sono una marea di QRM, però non c'è problemi oltre. Avanti, Groza. A fa Roger. Ma quindi devi partire domani mattina presto? Eh sì. Non ti voglio rompere le palloni, non saprei chi deve andare a guardarmi un coso, stanno vendendo un 440 a Grazia. Sì, potrebbe anche essere, non c'è problema. Ascolta, ma io, se ti interessa, io stavo pensando di cambiarlo. Cioè io lo so che il mio è perfetto, l'unico problema, già lo sai, è quello della ricezione, che secondo il mio punto di vista c'è sul QRM, capito? C'è troppo QRM. Però se ci mettiamo d'accordo, io lo spedisco da Bianconi e lo faccio riallineare, rimettere a posto, quindi una volta che arriva a Bianconi è più nuovo di quello che tu puoi comprare da tutte le parti, perché l'apparecchio lo conosco, in più se lo mangiamo e torna da Bianconi è come riallineato, è come nuovo, no? Anche se poi magari non ce n'è bisogno, però io volevo prendermi il 950. Sì, non parliamone. E ti faccio anche un ottimo prezzo, così che a me non me ne frega niente, no? Fabri, lo sai che non c'è problema. Non ci devo guadagnare, non me ne frega niente, no? Facciamo, andiamo, vediamo un po' se ne parliamo, lo vedi qua esteticamente in buone condizioni, ovviamente non è come uscito dalla fabbrica, però internamente lo conosco parecchio, poi gli si manda su, gli faccio quello che c'è da fare, anche se credo che l'unico problema sia qualcosa di disaccoppiato solo da lineare, credo. Se c'è qualcosa da cambiare, ovviamente fa tutto quanto, una volta che ce l'ho in mano, ne possiamo discutere. Non c'è problema, per me va bene. Non so quello che prendi, se sei sicuro. Dico, ti sto già dicendo, i difetti che secondo me ha, anche se qui qualcuno dice che secondo me ce li ha, lo mandiamo a un professionista, così se quando rientra è perfetto. No, perché ho l'intenzione di prendermi l'OV50, capito? Anche perché probabilmente con l'OV50 è più selettivo e magari non gli entro dentro i telefoni. Come se l'avessi già preso. Vabbè, allora parliamo con calma, no? Perché se ti dovessi interessare, infatti lo devo spedire. Lo spedisco. Va bene, allora io, guarda, venerdì mattina io sono libero, venerdì mattina se ci sentiamo la manco e la portiamo là. Mi senti? Ehi, a capo che ti sento, chi è? Antonio Alfa 1. Chi mi la taglia, ti sento, a voi. Con quell'antenna da soli c'ho due mezzi stazionari. Cazzo, cosa vuoi la tenere la pesca? Mettici una cosa dove non c'era un TM1000, mi pare ce l'avevi. Ci metti il TM1000, va bene, comunque ti ascolto bene io qua. Fa un passaggio e ti dico subito il segnale. Guarda, dai, devo fare passaggi tutti. Oh, saluti da Adriano comunque. E gli anni cambiati? 9:10 sei qui, sì, un abbaggio, 9:10 le 2:05 a casa mia. Ti dovrebbero ascoltare anche gli altri, Avanti, Fabri, ascolti la tavina, la casa sua. Sento uno, radio 05, sì, lo ascolto molto bene a Natale, non c'è nessun problema, glielo dico. Fai un passaggio invece a poi, se senti Sandro la prova davvero. Poi devo sentire Sandro. Ciao Sandro, buonasera. Buonasera Pomponi, salutoni. No, io sono con Beccia, l'altro amico non lo so, niente niente. Proprio una sacchettina, sono senza QRM ma non tiro fuori. Ecco. E c'è stato il break. Vabbè, Natalino sta uscendo con l'antenna fatta con la canola a pesca, quindi era, mi sembra neanche un metro dal muro, figurati. È chiuso da una via stretta, quindi già ce n'è anche per i pocci così come è messa. Pensiamo tutto come messo in verticale, avanti Greg. Eia, buonasera a tutti. Antone, stavo cercando a te. Sì. Niente, quei finali hanno delle sigle completamente diverse. Allora fa niente, lei fregatemi, già me li piglio venerdì o sabato, adesso vediamo poi, così metà ci stiamo con 23 canali, e apposta, me lo faccio funzionare un pochettino, è che peccato lasciarlo così buttato in casa. Ciao, Vinaggio, un po' di roba, e adesso vale un casino, sa che questa camera qua, bisogna che faccio qualche viaggio di Mondetta, di Rob, questi giorni. Andrà bene, niente, ripetetela. Proprio ti volevo dire che cazzera gli hanno avuto le balle a Giuseppe, e sono sicuro, penso che non metta a palatino a casa sua. Vabbè, tu c'è che mi vogliono chiamare i carabinieri perché dice che c'è indietro tutto l'episodio del vicino. E io non vi dico dove dare l'abbiamo incendiato, lui l'hanno incendiato il televisore, e quindi a casa sua momento entra la macchina. Vabbè, ma guarda, io l'ho sentito questa serie per quello che gli ho detto, gli ho detto al compare, no, con te ce l'avevo. Ecco, infatti grazie, ti ho detto, ce l'ho qui l'antenna, non fare nemmeno a farle mille picche, perché poi è anche tutta, tra una cancellata come se il vulcanizzante. Al centro, tu chiami il vulcanizzante, togli due vittine, la fai in due pezzi, quanto sarà? 2,5 metri, 2,60 metri, 2,70 metri. Cioè, la carichi in macchina e un attimo pronta a smontarla, la rimonti e la metti su, e poi una volta che c'è quella gli dici di non mettersi nessun problema, che quando gli dico così dici chiama pure i carabinieri, non adesso, li chiamo io se non me la smetti, e trasmette, perché se lui c'ha la concessione e sta usando un baracchino omologato col microfono suo, non ha nessun problema, capito? Antonello, dimmi Antonello. Ti volevo dire, ma quando tu devi fare pulizia devi gettare anche quel sintonizzatore FM? Il sintonizzatore FM è compreso le piastre. Perché ti piace quello? È bello, quello lì mi manca, la verità. No, se lo devi gettare, se no non c'è nessun problema. No, non è che non lo sto usando, sono un bel che non lo uso. Gira gira mi divento più che altro, perché sono qui buttati e non me ne faccio niente. Ci sono il vibratore, la piastra, poi l'amplificatore, vado alla piastra, cioè vado più a piastra, cioè quindi. Non lo so, adesso vediamo un po', devo decidere cosa fare, perché c'è un po' di roba. Ma quando mi compro un mobile, mi chiedo dentro un mobile questa cosa. C'è un valore, guarda che sia una di quelle apparecchiature antiche, c'è l'impianto filo fatto a blocchi, che prima una volta andava di moda, adesso quando pigli l'impianto filo tutto uno e quando vai a sistemarlo devi smontarne tutto. invece di una basta per affrontare un pezzo o l'altro. Quello sì, va bene, non c'è problema. Comunque buonasera a tutti, avanti. Ciao Antonio, è bello, l'email l'hai mandata. Non ti sento già, sei lontanissimo. Ciao Antonio, hai mandato quell'email? Sì, sì, gliel'ho spedito, la verità stamattina alle 10, però non mi ha chiamato nessuno la verità. Vabbè, comunque Marco la prossima la scena. Non ti preoccupare, se ti puoi aiutare, devi trattarlo perché so che è una persona coincidente. Ascolta, toglimi la curiosità, ma vabbè, tu il numero di telefono di lui non ce l'hai, no? Penso di no, non lo so, devo controllare. E nel caso, se ti viene bene, fai questa cortesia così. Se per aspettare lo posso chiamare io direttamente tramite il telefono, è meglio anche. Non ti preoccupare che Marco non ci mette problemi. Mi auguro che vada in porta, però io ti ho dato una mano, non c'è problema. Ci vediamo che vada in porta. Via, va bene, dai, avanti gli altri. Un attimo. Avanti, sa. Scusate, è la 50 chiamo, quindi vado a fare carico. Signori, salutoni, lascio la parata in 4X, salutoni Pomponio, 7351 a Gianni Doppio Rum, a Fabrizio, Antonello, Antonio e non mi ricordo l'altro nominativo che non ascolto, salutoni a tutti, circolari, ciao dopo, passando con la Raghero, alla prossima. Ma facciamo santo, dai, buon correttivo, buon caricabatterie e poi magari se vuoi rientrare siamo qua. Lattarino, va. Lattarino, non riprende, riprendi tu. Però, non è un fondo, mi sto bevendo la birretta, riprendi. C'è un fondo di avanti, allora, non lo so, chi vuole riprenderà, riprende. C'era uno sotto di te, chi è che voleva entrare? Che parito, c'era uno che si è fatto un paio di volte sopra di te, si trova tutto, e poi è parito. Se c'è il battalino a Bizzese, arriva a forte anche l'esario, una bomba, perché si è tenuta con un più 5 con lo coso. Col presidente senz'altro, io ho già. Se la sera siete l'accordatore come un tu l'altro giorno, avrei urlato tranquillo. Spara bene con l'antenna, spara tal come chiusa, spara bene. Ma dov'è? Che lì andata lì. Lo sparo sento livello QR. Ma quell'antenna, perché non andava bene, non avrebbe mai accordato. Capito? Adesso devo accordarla però, perché c'ha due mezzi stazionari. Ah, ma l'hai ricostruita allora? L'ho rifatta. Ah, K, quindi c'è le due e mezzo. Quanto hai fatto la misura del capo, Natali? No, ho quel capo che hai messo tutto, ah, che l'ha messo male. Il dipolo così non in verticale, non potrebbe mai accordare. Ci ho pensato, e poi c'era il positivo collegato al posto della massa. Ho capito. Vabbè, scusa me, come le hai preso le... Mi hai preso tutto fare in pratica allora? Boh. No, già lì, la devi vedere come l'ho fatta. Vabbè, accordala allora, taglia un po' da una parte e un po' dall'altra. Vai 2 centimetri per volta e guardi a vedere se c'è scende di stazionare, te la cogli subito, no? Cosa sto sentendo? Ma adesso mi è andato in corto il cavetto del rollmetro, quindi non posso fare nulla, poi non andiamo a farla, te la faccio un calmo, non ti preoccupa. Antone! Va bene, come vuoi la salita, allora, buon prova, solo che ti dica io, questa mente si fermava, buonasera anche a Claudio, buon Antonello. Niente, poi c'è questi altri finali, non so se ti interessano, C1061, sono in coppia. 1061. Non so se mi parla bene. Va bene, dimmi che conserva me. Adesso, perché io stavo guardando questi altri, no? Quelli che sono quelli che rimangono tondi. In poca parola qui c'è scritto, allora adesso te lo leggo, sono talmente in piccolo. SG12 39 14 F. Sono quelli, quello tondo. Capito. No, ma io posso vedere di lì, perché è stato di passare qua e venerdì sera, quindi. Non sale lì, perché mi servono il distacco e l'utilizzo. Si chiamavano Ben, non lo so, la sera grandezza c'è, cioè, giustamente cambia qualcosa, comunque già sono tutti e due in finale, ed è un vecchio paracchino anche questo qua, un 23 canali, totalmente diverso dal tuo, e c'ha questi finali qua, se si vedono sono stati mai toccati, c'è anche la, il colore nelle viti, e non sono stati mai toccati, va bene, nel caso io te li stacco una passata di pistola e li stacchiamo direttamente. Avanti Claudio, buonasera. Ciao a tutti, ciao. Buonasera, buonasera. Antonello, Antonello. Oia. I poli vanno costruiti con le mani. Con le mani vanno costruiti. Non aggiungo altro. Ma che? Sì, c'è gente che le costruisce con i piedi. C'è gente che le costruisce col culo. Putteranno un po', ma Luglio, buonasera a tutti, Massimiliano Archimede. Beh, visto lei il filmato su Facebook, sulla mia pagina? L'ho visto. Quei camionisti sono così, cara. Mai quei camionisti sono così, guarda. Lo metterò su YouTube e ci scriverò il tuo nominativo. Ma hai sentito chi si sente per primo, eh? Chi è che si sente per primo? E io purtroppo. E io metto il tuo di nome. Ma tu te ne vai, eh? Cesci. Va bene, vai. Buonasera a tutti comunque. Io domani ascolto che sta iniziando un bel film e me lo voglio vedere. Se non ci sentiamo, ritenetevi tutti salutati. Rimango in cuore. Avanti, ti tocca. Ciao Claudio, è proprio Rix, allora, buona visione. Claudio, che film c'è stasera? Non me lo ricordo. Non ricordo il nome, amore rispetto, una cosa del genere. Amore vendetta. Un amore e una vendetta. No, lasciatiamo. Guardalo tranquillo. Claudio, mi senti? Certo, va bene che ti ascolto. Santiago Nova, Radio 5. Ah, anche la Mandriga arriva adesso. Arrivi, ti ho sentito anche stasera, solo mi stavo facendo la barba. Non potevo risponderti quando stavi parlando con Gianni che era in macchina. Santiago Nova, Radio 5, arrivi in attori. Ottimo. Se vedi con che antenna sto uscendo ti metti le mani in testa. Però fatta da me, perché prima... Non ti riesci. Antonello fa le antenne a culo di scimmia, tu le fai a culo di zombie. Okay. No, ma io sto uscendo bene per un... un pochettino anch'io a questo, mi facendo calcoli e cose del genere, le antenne. E io dico che se uno non ha mai detto i parametri, i dottori ci hanno sempre o di culo oppure non riescono a bere per niente. Il cosa è quello. Poi bisogna arrabbiarsi quando non c'è la materia prima, si bisogna fare così. Ma quando c'è il libro adesso c'è per il braccio. Mi costruisco un po' di antenne. Devo mettere qua su piccolino, ma ancora adesso vediamo un po'. Non è che posso guardarmi più di tanto qua, se no cominciamo già a arrivare qua di sotto a casa. Oh, va tanto bene, non ti ho messo. Scusate, un paio di giorni devo pubblicare sul mio sito un programmino per fare il calcolo delle antenne, così le fate tutte quante a posto, già tarate, già con 15 collegamenti esteri. Bravo, bravo, interessante. Questi programmi sono bellissimi, bravo, aspettiamo, così poi ce lo dici. Allora dai, dici qualcosa su questi amplificatori. Gianni, doppio whisky, dove sei? Gianni Vittu, non mi dice. A quanto pare deve aver lasciato la bottiglia aperta, stappata e ciclata a terra. Gianni! Si è addormentato col microfono. Ecco la pappa alla bocca. No, non ci si passa il tempo di avventura in coscia bianca. C'è a Canale 5 di avventura in coscia bianca oggi. Non so, film che stavo seguendo, ieri stavo guardando quello di Rolbova, ma stasera c'è questo con degli attori simili, e me lo guardo. Dai, vabbè, io vi saluto, buon questo a tutti e ci sentiamo alle prossime. Statemi bene, buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao, buonanotte. Io vieni avanti, grazie mille, che anche io me devo andare a letto, dai. Dici qualcosa. Sì, aspetta, Claudio, per interessa anche a te, che ho chiamato con il nostro amico comune. Allora, il discorso dei amplificatori d'antenna e poi anche è un discorso generalizzato al fatto di quando una persona, un nostro vicino o chi per lui chiama incazzato perché ti manda i controlli. Allora, il discorso è questo qua. Siccome c'è stata una rivoluzione un po' delle leggi, l'amplificatore d'antenna è ammissibile. È ammissibile quando lo stesso è certificato, cioè la certificazione CE. Allora, non dovesse presentare la certificazione CE, allora è in multa diciamo, il proprietario o il condominio che ne è in possesso del amplificatore. Altresì, anche quando io che chiamo un controllo, perché tu hai montato l'antenna e io reputo che tu mi stai disturbando e chiamo controllo, viene il controllo, verifica che in realtà invece tu non stai disturbando, allora mi fanno pagare a me la chiamata che io ho fatto, cioè le spese dei tecnici e dell'intervento di queste persone, perché il problema non sussiste, ok? Perché se loro fanno il controllo che tu come CB hai i canonici 4 watt, l'antenna è quella omologata, il baracchino è quello omologato, sei a posto con la tassa di concessione, hai la concessione che devi avere, non hai altri problemi, non ci sono problemi nel tuo caso, perciò io che ho chiamato, io dovrò pagare tutte le spese di questo controllo. E allora verificate, perché magari mi disturbi il televisore, che o il verificato dell'antenna non ha il marchio CE, o lo stesso televisore o il ricevitore non sono omologati CE, pago io, cioè mi mettono anche la multa. Ho capito, quindi non, sì, non lo so, ma infatti io, ma ci sono delle norme che quanto deve rimanere più alta, più distante, dietro, avanti dal televisore e dall'antenna? Assolutamente no, non c'è nessuna norma che dica che ci deve essere una distanza minima o dove deve essere ubicata l'antenna, anzi ti dirò una cosa, col cambio delle leggi, la legge, perché prima non era possibile, può ammettere l'attraversamento della linea di orientazione o della stessa antenna anche in aree pubbliche. L'importante è che non intralci il passaggio o che non ci siano degli sbocchi nelle pareti dove porta l'antenna, e può passare in proprietà private, e gli stessi proprietari delle proprietà private non si possono opporre all'installazione dell'antenna o al passaggio di colui che deve installare l'antenna o del proprietario dell'antenna. L'assemblea che vota, che ha sentenzia una votazione contraria all'installazione dell'antenna, ha valore nulla. Sì, ma poi c'era anche così prima, c'era qualcuno anche prima, perché l'antenna la potevi piazzare, ma sono quindi ancora meglio, dai. Però non potevi passare in aree pubbliche, cioè non potevi attraversare aree pubbliche, invece adesso sì. Quindi mi puoi attraversare aree pubbliche? Faccio l'esempio, se ci sono due palazzi confinanti e in mezzo ci passa la strada, e prima non potevi far passare un filo da un palazzo all'altro, era vietato. Invece adesso lo puoi far passare, l'importante è che nel passaggio non ci siano degli sbocchi o delle finestre, insomma, che non diano noie. Ho capito. Quindi se teoricamente io voglio piazzare un dipolo e voglio salire nel tetto di un altro palazzo, quello lo posso fare o no? Sì, lo puoi fare, puoi fare che ti sia confinante, eccetera, non lo puoi fare da 15 palazzi più là. Come ho fatto io quando mi ero appoggiato con le antenne, con le mie delta lupo, era appoggiato alla parete di un altro palazzo, però lì era cieco, non c'erano finestre, non c'era niente, e l'ho potuto fare tranquillamente. Sì, ho capito. Vabbè, su quello secondo me è una proprietà privata e bisognerebbe chiedere autorizzazione e devi averla, se non te la danno poi tu devi pagare anche un qualcosa, perché comunque lì è un po' più complicato, credo. Assolutamente no, te l'ho detto poco fa, tu hai il diritto di passaggio, cioè il privato naturalmente deve essere io parlo, faccio l'esempio, come qualcuno c'ha un lattico, no? Che sbocca nel tetto. Allora, se io devo installare l'antenna e devo passare dal privato, il privato non mi può, non si può sottrarre al mio passaggio. Naturalmente gli devo chiedere, devo bussare la porta, non è che entro e faccio la violazione di domicilio. Gli dico, guardi, io domani devo venire a installare l'antenna, mi deve lasciare il passaggio. E lui non si può opporre, al massimo ti può dire, domani non va bene, faccio la settimana prossima, ok, però non si può porre. Ah sì, quello sì, quello che avevo capito un'altra cosa, io dai, ci siamo capiti. Anche la prima era così, dai, io mi ricordo che la prima, se tu dovevi passare per salire su, dovevi accedere dentro una famiglia, all'interno di una casa, avevi l'autorizzazione, nel senso che per legge era autorizzato, poi riprendeva sempre al proprietario se era, favorevole o no. Avvicina il microfono, Gianni. Scappa, così va bene. Via. Gianni, ti stavo chiamando poco fa, l'hai visto filmato su Facebook? No, non ci sono andato, non ci vediamo. Allora, vai sulla mia pagina che c'è il filmato che ho fatto sto pomeriggio quando stavo facendo la messa. Guarda che va bene. Pagato. Come sentite? Guarda che sono con un'altra parecchio adesso, non sono come il solito. La messa l'abbiamo fatta in due, ma a chi si sono la serie? No, la faccia non è uscita purtroppo, ci ho provato ma non è uscita dall'apparato. Sì, mi pare che ci sia anche tu nel filmato. Guarda, tanto io c'ho l'amicizia di Claudio, di Gianni, di Luca, se c'hai uno di questi tre trovi la mia pagina, che chiedi l'amicizia e sei a posto. Fermati, lo vado a cercare. Lo riprendo io, corretti da parte mia, dai. Grazie delle informazioni, ciao Claudio che sei in ascolto, ciao Archivelli, ci sentiamo, ciao Antonello Pomponio, ciao Gianni Doppio Room, ciao Brodo, sei ancora in ascolto, a domani. domani alle 3 ti faccio sapere l'esito. Tanto mi risvegliamo bene, ma è una di quelle poche volte che mi sento esito così, chissà perché. Vabbè, da domani mattina, infatti mi curico che ho fatto oggi, praticamente sono roba di cui di 30 ore sveglio, che domani mattina mi devo alzare presto, adesso provo a curicare sperando che mi addormenti. E vabbè, tu vai tranquillo, sereno, poi io nel primo pomeriggio ti faccio sapere l'esito. Siamo io a Cagliari, tanto non me li danno subito, devono passare almeno 24 ore dall'esame. Ma meglio me lo danno subito. Ci sentiamo domani, ciao, non ti dico niente. Buon viaggio, ciao a tutti, guardati anche per me. Ciao, ok, da domani. Ok, ma non fa fare il bando pubblico dal sindaco di Ussi. Il problema è al limite. Rituale, ciao Fabri, era amico intimo, gli ha detto che gli dava fuoco all'acqua. Quello è il collega, che è quello di qua, che come si chiama? Claudio, con le colonnine andanti. Oh, buonanotte, io dai, lasciatemi andare, buonanotte a tutti. Ma vai, non a pesca me. Ciao Fabri, ci sentiamo. Ciao Fabri, buona festa. Ciao Fabri. A tutti, tanto bene. Alto nello di primi russi. Dimmi tutto. Aspettiamo con l'antenna di 433 MHz di colina. Vediamo se mi senti. Cosa? Mi senti lì? Ho capito, no. Mi stavo con l'altra barattina con l'antenna 433. Guarda se mi senti. Vai. Dove vuoi essere, mi ascolti? Eia, Santiago qua a sera, di oltretto ti ascolto. Conferma che qua. Chissà, che bello. Passo con l'altra. Un'altra cosa? Si 17 cm è lunga quella. È l'antenna che si usa per i cacciamonitrici della FAT. Ecco, provare con la 220, con l'impianto elettrico non fa. Che ti dico del fuoco d'otto? Che guarda che prima si usava, negli anni 50, si metteva un condensatore intermedio per bloccare la corrente elettrica e poi intanto la frequenza passa e si usava il piatto elettrico, si accordava a quello. Sì, una volta, ma la TV quella lo usavano. Prova adesso a vedere cosa succede, se vedi roba incendiata. E appena. Mi sembra una 6F, Massimiliano. Mi senti con la 6F? E ti serve una 6F per TV? No, cosa me ne vuole? No, grazie, molto gentile, ma non saprei dove utilizzarla. Potrei metterla per modificarla per i 6 mesi, ma per il momento non ho intenzione di mettere nessun tipo di direttiva così a elementi. Cavalaba. Ma io adesso me la modifico per la 27. La 6, se vediamo cosa esce fuori. Sei rimasto di qua, io tu, l'altra lì, ce l'ho l'altra lì. Ma io ho sentito un bel basso per rimanerla, comprensibile, sentiva bene, però era basso. E poi dopo esce la lì. Per me era come un padre, io c'avevo la moto, ma quando... Allora, con la mattata, prima c'avevo la rampe, quando abitavo in San Galato. C'avevo messo nella via, stretta, il muro, c'era una rampa all'altro, c'erano 3 metri, giusti. Quando ho fatto la rampe, ho potuto mettersi solo su due radiali, gli altri non ci stavano. Io uscivo così. Poi mi sono stoppato, non ci ho messo la moto, ma tutto in tira, ma per tutto. A quanto ce l'ho fatto a salirla. E ho guadagnato un 10B da una all'altra. Poi quando sono tornato per da me sono tornato, poi l'ho regalata a Stefano, la moto. Si è tornata per regalata a lui. che pesava un break, pesava 3-4 kg di antenna più paro, anche il dopo la forza. Volevo dire Antonio, ma lì da Fusaro, quei finali che ti servono a te, non li vendono più? Questi che ci siano, i due SC già di troppo. Devo chiedere se il gestore li prende, così sistemo questo apparecchio. Almeno questo sistema non funziona. Questo unico. Ora vedi, dove è stato, se non ricordo dove li prendo. Due finali, a me non avevo il sistema con cui buttate da parte con l'apparecchio. E basta, poi non c'è nient'altro. Non è bello, se riesci a... come si dice? Va? Sì. Se riesci a... come a recuperarlo, a restaurarlo, è bello, Quello sì, ma devo prendere i beni di apparecchia, volevo anche tutti quanti dei ganotti, non mi interessava per niente. Ho dato dai Kiwi 2 a un amico suo Ausino, che ha passato la bandita, c'era la villa su, tutta piena di cimini, e che proprio le stagioni, dovremmo fare cosa. Gli ho dato il Viking, un po' di 6 canali e un 23 canali a un regalato. Non mi ricordo se era un toccare, lo vediamo noi. Poi invece la capi 23, c'era già 7-8 anni, cosa, Gianni, quello che abita lì a Sospiano, non l'ho più visto. E una di Gianni, non so se ce l'abbia ancora, se l'ha venduto, brutto, la verità. Sono 23 canali, un originale originale. No, se diciamo quel modello lì dei noi che erano omologati, sì. E domani? No. No, nessuno ce l'ha omologato. Perché è bello avere, come pezzo di antiquariato è bello, avendolo perfetto sia esteticamente che poi all'interno del circuito è bello avere un apparato così, 23 canali, però è carino, dai, pure dalla portata di quelli che abbiamo adesso. Sì, vabbè, se li metti sopra un mobile come apparecchio da collezione, senza microfono attaccato, senza appena attaccato, va anche bene. Ma se ti viene un controllo ti posso venire un accidente, ma per fare luce come apparecchio da collezione. E devi sono tranquilli, se tu lo trovi invece attaccato l'antenna, sei tutti tu. Però è bellino, vai a fanculo, a sempreato di storie, cagate, però avere una mancanza di un numero di matricola ti rompono le spalle. Adesso dobbiamo essere tutti mancati cegli apparecchi. Perché prima c'era il cartoncino adesivo, con il numero di numerazione, punti 3, articolo 334, punto 1, 2, 3, eccetera, eccetera. E all'inizio detto al soldato che c'ho io. Adesso invece c'è proprio questa scena di sbronzata, c'è cioè il coso in metallo, con scritto mancato c'è, basta solo quello, numero di serie. Lo so. Sono cambiati i colori, intanto l'unica differenza è che adesso con una piccola soldatura c'è 200 canali, invece tu me lo devi spendere, per dire, 30-40 mila lire per poter comprare una scheda per poterlo modificare, e devi fare proprio di casino. Invece adesso è tutto già pronto, c'è il processore, fai un ponticello e le metti. Se ti metti la Sibria. Andate, che rimango in ascolto. Brava, brava. Buon ascolto allora. Tieni, se non mi devo mi assolito. C'ha la baracchina in camera, come fa a non farti venire sonno? Attenzione! Gente, frequenza del canale 10, buonasera dalla città del Carraggio. Spagna, avanti, l'Italia cambio. Ah, amico italiano. Pupu, guarda, tu riesci a sentirlo. Pupu. Attenzione, amico italiano. Amico carissimo di Berlusconi. Senti qua la Croazia. È la Croazia di Porto Torres, avanti, buonasera. Ciao carissimo, buonasera. Sandro, ti stanno chiamando. Buonasera Gianni. Ti volevo dire, sta, e questo altro apparato cos'è? Sente benissimo, Diciamo che questo è un apparato, diciamo, di, chiamiamolo, nuova tecnologia, dai. No, se ve la facciamo, quando un giorno capita che sono a Porto Torres e riesco a rintracciarti, vengo a casa tua e dai, ne cerco qualcuno e me lo porto a casa. Che ti ha portato in calamobilia? Vabbè, dai, lo sto un attimino provando, lo sto mettendo un attimino sotto torchio e lo sto un attimino provando. Come mi ascolti, Antonelli, a Lussi? Benissimo, forte, chiaro, perfetto. Ok, dai. Lì da parte di Pomponio mi sa che non ci sono problemi, ciao, dopo. A voi che non ci sono problemi, sei perfetto qua. Sì, io ci sono venuto al governo e mi ha portato un assegno di 400 euro per il 70, me lo avevo dato. Mi ha detto dammelo, che non vuoi invece, gli ho detto no, e se no gli viene la malattia infettiva costa parecchio, perché se ne va poi ci vuole l'otto mano se fanno funzionare. Hai fatto bene, perché sennò poi magari se ne sente la mancanza affettiva del proprio partner, e poi c'è da considerare chi ha Ussi, essendo in alto c'è già tutto un altro ambiente, capito? Almeno c'è aria buona, non ti preoccupare, c'è aria buona, che è diverso dalla città, che è più respirabile l'aria. Comunque c'è Gianni Caramonti che sta chiamando, avanti Gianni. Gianni, riesci a copiarlo a Caramonti? Ma aspetta un attimino. Antonello, tu adesso ci devi fare, Vida Ussi ci devi fare da porta, perché io a Gianni di Caramonti non lo ascolto. Mi meraviglio come mai cosa gli è successo al nostro caro Gianni di Chiaramonti. Vedi un po' se mi sente, facci la ponte, dai. Eia, attento Gianni di Chiaramonti, Porto Torres non ti sente, mi ha chiesto a vedere cos'hai combinato. Ma cosa hai comprato, quella da 44 a 100 watt? Sta parlando. Prova a chiedere anche agli altri, dice che sta facendo delle manovre, non so cosa sta sistemando, dunque diciamo un po' precariata un po' la sua situazione, e mi ha chiesto a vedere se voi altri lo ascoltate. Io non ascolto, quindi doppio rumo non ti ascolta per nulla. Io l'ascolto un bel male, Santiago è 7, spero che sta il segnale, allora in mezzo al QRM. Per me l'hanno picchiato in un paese, sta mutuando una vicina al cimitero, così non lo trova nessuno. Tanto prossimo per lo smitter per me. Niente, già non ti copia nessuno, leggermente Antonello, un pugno in mezzo al QRM, io bene o male già riesco ad ascoltarti. Niente, fai qualcosa, se no te l'ho detto quando è ieri, o avanti ieri, comprati l'Alan 44. Aspetta un attimino. Avanti. E aspetta già, sono io. Chiuso, vi saluto a tutti. No, non ascolta, diciamo, si dice che vi ascolta a tutti, forte e chiaro, e basta, ma riesce solamente a parlare con me appena con Pompugno. Dice che ha chiuso e ci sentiamo, diciamo, alle prossime. Oi. Gianni. Visto l'hai filmato? Cappa. Beh, ti piace un giocatore, li abbiamo già visti quelli vecchi. No, già è bellino. È bellino il filmato. Senti anche un pezzettino piccolo della mia modulazione. E poi un altro giorno lo facciamo meglio. me lo risetta meglio sia l'effetto in uscita che quello che ricevo. No, ma io sentivo a me, era abbastanza chiaro. È che lo devi fare quando c'è l'altro microfono, perché questo qua, bocca, se non lo avvicini bene alla bocca, qua, quando lo avvicini alla bocca rende un bel. Quello mi sono reso conto. Dai, seguite, sono un ascolto. Ho visto che ti sei collegato, sei al PC, ho capito. Io sono rientrato, non so se avete capito, avanti a chi tocca. Gianni. Avanti. Ho capito, no, perché? Okay. Riguardo, hai accennato adesso il discorso del microfono. Ci sono dei momenti proprio dove la modulazione si abbassa, adesso non so se te lo allontani dalla bocca o seppure è un problema. Questo? Adesso non so se è quello che stai usando attualmente o meno. Questo qui è il manio, non è l'apparecchio che stavo usando io. Comunque lo fa quando lontano dalla bocca, perché sono abituato al microfono amplificato, ci parlo lontano e quindi anche con quello faccio così, ma è proprio per abitudine, è abitudine e basta. Quando arriva l'altro vediamo come va. Oh, allora aspetta un attimino, quello cos'è? L'S9? Cappa. Allora diciamo che sono mezzo pariti con questo. Ascolta un attimino, ma il... perché anche quello c'era altro programma, giusto? Sì, questo c'è tante cose. Sì, c'è anche il tuo programma. Ma adesso non ce l'hai inserito tu? Cappa. È inserito? Sì, ya. Boh, non lo so. Non lo so, ma la durazione è un po' schiacciata rimane. Adesso non so se lo tieni troppo vicino, lontano dalla bocca. Prova così, guarda, 1, 2, 3, prova. No, così è peggio. Boh, non so cosa dire, sì, il tuo problema comunque è attaccato, lo lascio sempre sì. Non lo so, sarà un problema, cioè sarà una questione di microfono allora, non lo so. Va bene, comunque ho sentito un break, mi sembra che sia stato Antonello, parla per l'autore, sei Antonello. Mi hai capito male? Sì, vabbè, mi sono confuso io, Gavino. Ma io stavo entrando, volevo farti la Chiaramonti, io, Chiaramonti era, no, nel cazzo era. Io sentivo. Ah, quindi lo sentivi a Gianni di Chiaramonti? Sì, io lo sentivo. Non bene, però lo capivo quello che diceva. Inzo. Ma da parte mia è negativo. Lei, vabbè, dipende anche da posizione. Io sono in una posizione, tu sei in un'altra posizione, quindi magari cambia. Va bene, dai, ok, facciamo girare un attimino. C'era Ossilandia. Ossilandia. Sì, dimmi tutto. Dimmi tutto, va. Ti rilascio l'antenna. Infatti stavo pensando a che discorso tu dire la verità. In questo momento non mi viene niente, vi stavo ascoltando. Va bene, dai. Va bene, allora vediamo un attimino. Pantonio, raccontaci qualcosa. Che dopo la verifica andiamo con i sci da Monte Rosello e scendiamo là di punti da lì. Ma ciao me. Gianni, organizzati per andare a lavorare. Cappaga. Ebbene, trovati quei due opuscoli che ti ho messo adesso? Sì, li ho trovati. Tutti con l'eco, con l'eco. Sono andato a vederne due. Capito a te. Uno che ce n'è lì in via Pascoli, via Pascoli dove prima c'era un ufficio, ma è bellino diciamo, dai, bellino, sarà circa un 30-35 metri quadri, c'ha un servizio, bellino. E ne vogliono 350 euro. Uno. poi ne ho visto un Bocos, tipo Bocos macchina, tipo garage, 20 metri quadri, nuovo, vabbè nuovo, c'è luce, c'è acqua, c'è tutto, 150 euro, ma dimmi tu. Ma c'è molto spazio ti serve? Ma guarda, a me lo spazio che mi serve sono intorno ai, a quei 30-40 metri, 30-40 metri quadri, diciamo, non eccessivamente, capito? Però insomma, che devi spendere 350 euro per 40 metri quadri, insomma, allora bisogna un appartamento di otto. Sono usurai. No, dai, infatti glielo ho detto scherzando così, ho detto signora, guardi, non se la prenda male, detto, però ho detto, per questi soldi io trovo una mansarda, trovo un appartamentino di 50-60 metri quadri vuoto, cioè se la prenda male, ma e si è messa a ridere. Tu ti si tenta, no? Poi se trova il pollo che ci casca o che ha bisogno, qualcuno che ha bisogno recentemente se lo prende. Capaga, vabbè, allora, io tra due mesi perché magari dando un'occhiata riesco a trovare quello che fa per lui. Scusate, sono entrato un attimo a salutarvi che per me è pronto a mangiare. Sentiamo le prossime, dai. Ok, dai. Ciao Gavi, buona carica, buon tutto, dai, ci si risente. Bravi, non mi metto con la mia ascolta a Fantango. 9+10 qua mi arrivi e la radio va benissimo, mi sento perfettamente, non ho problemi per ascoltarti e boh, niente, la radio ti, per me va bene. Ok, una buonanotte a tutta la ruota, dai. Buonanotte anche a te, avanti Antonio. Ciao Gabi, buonanotte, buon tutto alle prossime. Intanto Vittorio Tango, Vittorio avanti. Vittorio. Volevo anch'io partecipare, ma niente, in particolare, sono tutti comunque a tutti. Bene, ascoltato. Galleggiate un po' con me, non solo per lanciare la motivazione appena bassa, metto a uno e basso, solo poi vai che vabbè, posso aumentare un po', ma non molto, altrimenti pure, va a distorcere, così va bene. È troppo ripetitivo con lei. Quella è il digitale, ecco, già. Riparte tutta la parola intera, è uno dei migliori, uno fanno più bravo di quel tipo di ecco, è veramente bello. Avanti, visto che riprova, vabbè. Guarda adesso, prova a regolarlo, in un certo modo. Se riesce ripete la parola. Guarda un po'. Adesso ripeto una parola. Questo è perfetto, sembri Berlusconi. Anzi no, Bussi. No, ce l'abbiamo duro. Ma ti è altro Bussi. Cominciamo a stimolare questi ecco. Comunque saluto Vittorio, ma da parte mia negativo ascoltare Vittorio. Dove stiamo andando Vittorio? Zona Monte Oro. Ok, no, da parte mia negativo poterti tirarti fuori. Negativo. Ecco, adesso mi faccio sentire questo qua. E questo adesso Gianni mi dice cosa che non le piace. A parte che mette. tuo non lo fa come fa il mio, la ripetizione tante volte. Sì che lo fa, lo fa. Aspetta un attimo, faccio un attimo di bianco. Non è questa qua, scusate un attimo, faccio un attimo di bianco. E a me a sapere allora. Sì? Solo io. Anzi, fai una cosa, ancora dopo un po', metti il tuo eco. Sì. Vuoi che attacco l'effetto eco io? Ma il mio è un cesso. Capito? Più che altro è una camera con il betto, no? Mi toccherebbe attaccare il coso, il cambio del nome, è un casino adesso. Allora, domani mi riprendo un po'. Quella proprio ecco, quello è proprio bello, c'è la cosa, Vittorio. Fa un sacco di effetti, quelle quali sono usato anch'io è micidiale. Fa la migrazione pulita pulita. Allora, io c'ho un cesso, diciamo. Se avessi mescolato un mixer che fa speciali eco, allora sì, sarebbe stato bella la cosa. Sta accendendo la macchinetta, eh. Accendi la macchinetta, che tu piaci bene con quell'eco. Dai, io tutti leccando sta. Prova a dire abbiamo le mele, abbiamo le banane, 4 kg 1000 lire, avvicinatevi a questa macchina, 5 minuti di sosta e poi andiamo via. La ripete completamente. Dissipatore, c'era la ventola? No, negativo. Cazzo, questo c'ha una ventolina, ogni tanto prende parte e poi si ferma. Deve essere che scalda un bel quello lì. Il mio non scalda niente, non ne ha bisogno, c'è il dissipatore, ma pure, ma non è che scalda più di tanto. No. Diciamo tutta un'altra fattura. E vabbè, questo qui costa anche un po' di soldi, costa 470 euro questo qua. 470. Oh Iuia, oh Iuia, oh Iuia. Troppo, io. Vabbè, la parecchia americana è parte da una frequenza, ma è l'altra e si potrebbe dire che fa quanto. Forse anche la metà di 80, vabbè, però. Non lo so. Non ho capito cosa stai dicendo. Come prezzo ho detto che mi sembra un po' altuccio, ho detto. Però per un apparecchio così mi intendevo io. Ma almeno non ce n'è da quel pezzo lì. No, me l'ho voluto comprare io questo qua. Perché avevo già le S9, questo è 980, non è S9, questo qui è molto superiore. È un apparecchio che fa un bericoso, comunque non c'è problema. A me piace questo. Il 680 è un apparecchio vecchio, questo ha tutti gli elementi nuovi, è molto più difficile che partano di un apparecchio che già c'è una sua età. E allora, cosa deve partire? Ire. E allora ci siamo tutti quanti? quelli ti si illuminano? No. Ecco. Allora, questo si illumina tutti i pomelli, questo arriva fino a 20 memorie, poi c'è la memoria sua. E le maniglie, si ammanigliano. Ma dimmi da dove parte a dove arriva il tuo? Di questi apparecchi che faccia lo spettico non ce n'è qualcuno. Che faccia? Allora, questo sulla memoria c'ha la padante e la polacca. Non ce ne sia qualcuno che faccia lo spettico di quegli apparecchi, la possono utilizzare come sensore, come faceva Luigi con la macchina rossa attivamente, già. Ma qua secondo me lo vedere che gli do un po' di referenze a... Oioia. Cosa ti fa male? Fa male. Prendi la aspirina. Già presa. Alessia, dimmi da che frequenza fa quello lì? Questo tardi 25:30. 25:30? Yes. E allora fai più del mio. Questo qui fa da 25 a 28. Cioè 29, scusa. Ehi, vabbè. Siamo lì, dai. Mio fa da 0 a 2000. A voglia. E anche giochi. Perché te lo metti in macchina, sa quello lì? No, come fa a metterlo in macchina, io dai. A mettere in macchina questo, insomma, non è un Midland tipo 48 o così via, dai. Se non è giusto qualche volta così, ma non lo puoi tenere in macchina questo. Molto grande? È grande, sì. Poi presente il 48. Ecco, è molto più largo e molto più profondo del 48. Ma è. Ah, se metto una cosa del genere in macchina, la prima pattuglia lo vuoi in macchina. Dice, cos'è quello? Un baule, dice lui. Un tostapane. Mettere in macchina, se non è così qualche volta che togli ottimo sfizio, però non lo puoi mettere, figurati, lo lasci in macchina, parcheggi la macchina chissà dove, poco a poco lo vedo, guai, ti fanno una festa. Tu non sei più mascato di queste cose, no? Prima già te li frega, mi avevano rubato l'FM500 dalla macchina, ma... Ma che sono? C'è un tornamento Andrea, di 548 da sto casa di Giannina, che poi ce l'aveva due cibi di latte non si usavano lì dove c'è il grattacielo. Uh-huh. E io lo so che ci abitava una persona che conosco. Sì, in tre abitavano in quel rione, c'era figlio di Simba e... altri due cb. Siamo Davide, Daniela. Ah, una storia di Davide Daniela, vabbè, quello è... Quello è quelle parti del basso, è proprio di fronte, capito, a quei due grattacieli. A Davide lo vedo sempre, lo sai, viene a Porto Torre col camion a scaricare le bibite. A lui allora. Prima che per Sassari, quando più doveva lavorare si faceva tutto il giro del ciclo di arrivare a casa sua, adesso invece fa il contrario, magari fate la promozione si arrivano a Sassari. Giù c'è un bene, una volta siamo mai ricordo che stavamo andando a pescare, lo possiamo vedere, lui è biasiato, io. Si sono biasiato una gottura, si sono addormentati nel molo. Per non dire tutto il casino che hanno fatto. prima ci sono fermati al bar, c'era questo ragazzo che giocava al miliardo, gli avevano detto cose, ho detto io muoviti che dobbiamo giocare, ma noi ci dovrà dentro, proprio come fuori ad Alfia. E sono messo io in mezzo che lo conoscevo, e ho fatto la pacella. Poi, sempre guidando Elio, stavo guidando Elio, hanno messo dei tipi volantinando, gli ho detto dai ferma questa macchina che non posso volantinare, ho detto vigile notturno non so che cosa, e gli erano tutti gli si tagliavosi, tutti gli si dicevano di buona mano, conoscevano a me e si sono servati d'ora. Poi al molo, vabbè, poi sono arrivati a Malai e gli si dava la pistola, io che spariamo in alto, se si mettono a sparare, no, io non voglio sparare, non la fortuna. Poi siamo arrivati a pescare, ci sono cotti, io ho continuato a pescare, poi li ho lasciati cotti come erano lì, perché macchina con loro, così cotti non ci andavo, l'ho preso il puro, non è stato la tassassa. Sì, già l'ho fatto di tassate tutti e due, la verità, oi, mi ha combinato tanto. Quando c'era il baracchino parlava che era sposato a Ussi, un giorno lei, non sposato, si era fidanzata a Ussi, un giorno lei c'era, tutti in gente, 215, tutti spacciati, perché è andato in discoteca lì a Ussi e stavano a prendere le balle alla ragazza, lui l'hanno pigliato in quattro, l'hanno picchiato proprio scendo con la pattuglia dei carabinieri dietro, facendo una scorta, se no avevano ammazzato. Ma chi è andato? Ehi, la verità mi ha trovato una volta trovando la sentina che avevo bucato col furgone, non avrei potuto fare nulla perché avevo la ruota di scorta stretta troppo, lui c'aveva con la chiave a croce, ma anche una mano e l'abbiamo cambiata, se no ci sarei rimasto fermo, ero carico pure, abbiamo cambiato insieme e poi siamo andati al bar, ho ritato una birra e via. Ora per quello già di quello glielo so anche io. La giovane ha combinato un sacco, la maglia si è calmato, ho visto, è diventato un pochino più responsabile da quando si era sposato. Avanti, sa. Ok, dai, io ne approfitto, signori, che vi lascio. Dai, buona serata, buon tutto, ce la risentiamo alle prossime, né? Vai. Alessà, buonanotte. Avanti, Alessio. Ciao, sa, ci sentiamo, buonanotte, alle prossime. Dammi bene. Cappa, avanti, riprenditela. Cerca Massimiliano. E ci sono anch'io ancora. Ho eliminato alcuni parametri della... Buonanotte, all'amico. Tante cose belle. Leggero, questo qui ci piace. Eh beh, è regolabile, no, già? Dici così, non è fastidioso, ecco. Così è una radio, diciamo, angelica. Credo che ti hai toccato le balle, Vittorio. Dove? Credo che ti hai toccato le balle, angelica. In pratica se stai producendo il futuro devi già salire sopra. La verità che mi... Tocca. Una radio suave, dai. No, Gianni, volevo dire, una specie di radio frosciata. Frosciata. E conosco uno che ha boccato. È l'audazzi che è così alto, una volta, per la porta. Buongiorno. E andiamo bene. Ti giuro, amico. Una macchina che è la porta. Non sono uscito Massimiliano. No, basta la radio, non si capisce nulla. Ciao. Prova. Sì, adesso va. Ola. No. Un po' più leggero, così va bene Gianni. Cappa. Tu lo fai abbassare perché sei gelosa. Se vuoi te lo regalo. Non lo puoi, non lo puoi. Che cosa? questo giocattolo qua grigio. Ho un apparato, quello a fare audio che c'ho, così mi sento più meno. Butti via. Se non lo vuoi lo butto. No, no, dammelo a me. Allora, magari con la commissione già fatta. Lo so che io non lo butteresti mai, che se no tu non puoi giocare, non puoi tornare a vivere la tua fanciullezza. No, c'è solo l'altro piano, ce l'ho doppio, ce l'ho. Questo è quello giocattoloso, poi c'ho quello professionale. Io non rimarrei senza, a prescindere. Ma le comprate per giocare, le usate per qualche cosa di specifico? No, li ho presi per giocare, devo essere sincero. È stato uno sfizio, questo qua è doppio, L'idea era quella di stare in macchina, devo essere sincero. Poi dopo una cosa fai l'altra e non l'ho mai fatto. No, ce l'ho nella. Poi se hai visto le foto sul mio sito già, l'hai vista quella linea messa a rack. Quegli affari strani, dove c'è anche quell'affare blu, quello è tutto, sono gli effetti audio professionali, con quel microfono da studio. Ma li usi per modulare oppure solo così? No, quelli professionali li uso per modulare in 40 metri, in 80 metri, aiutano tantissimo, aiutano perché ti fanno la voce come deve essere, capito? E poi c'è questo qua che sto usando adesso, quelli grigi che hai visto poco fa, e questi sono la replica degli altri, però in formato, diciamo, piccolo, infatti costano un decimo rispetto all'altro, ed è giusto per giocarmi un po' e basta, perché sono da trapazzo, capito? No? Vai lì, accendi, te lo regoli e puoi giocarci. Andare, è una passione anche quella. Meglio visto che sento male, Ah beh, ma guarda che esistono, adesso a parte di dire, esistono i gruppi SSB stereo, proprio che utilizzano tutti questi sistemi, chi più chi meno si è organizzato con sistemi professionali, semiprofessionali e così via. È un gioco, uno si diverte come può. Ed è usato molto anche nella musica, nei complici, queste cose qua, questi tipi di suoni strani che fanno eco, eccetera, eccetera. Allora, quelli professionali che ho, dall'altra parte, quelli sono proprio da studio di registrazione. Invece che si sto usando adesso e sono per, diciamo, livello di casa, ecco. Possono essere usati per la chitarra, per cantare. C'è anche un'altra. In realtà mi mancherebbero altri due moduli, uno per il conteggio di BPM, che a me non me ne faccio niente, e poi l'altro è un amplificatore vero e proprio per collegare le casse, che non me ne faccio niente, capito? Però questi qua, tutto sommato, sono a basso costo e funzionano bene. Vabbè, e puoi utilizzare per parecchie cose. Andare. Antonio di Ussi. Non risponde. Chi è rimasto avanti a chi tocca? C'è Vittorio e io, in pratica. Massimiliano, gli ambiti non li usa nessuno, no, nelle altre frequenze, no? Tutti sono ambiti senti. Sì, no, non se ne usa di Roger Pippa. C'è qualche cosa, a me mi capita di usarlo quando con un portatile che ho e c'è il bip, però l'ho escluso. No, non serve, ecco, no, non ha significato. Qualche uno usa l'eco per farsi sentire un po' di più, ma non è raro. È più frequente sentire. sempre gente che ha i sistemi audio, che equalizza magari con modulazioni un po' più strette e acute per passare meglio in mezzo al casino, questo quello sì. O se no ci sono segnali veramente forti tipo 940, 950, 40 metri, senti queste modulazioni belle profonde, calde da salotto, tipo broadcasting, ma perché stanno usando dei sistemi audio di un certo livello, allora ti fanno questa modulazione cosiddetta da salotto. È calda, cominciamo il caldo. Io ho capito. C'è un ponte sul 29.600, arriva al 9.50 qua a casa mia, non vado dove vediamo dove quel ponte, ma si vede. Non penso che sia nostro, cioè nel senso sardo, è qualcosa che esce da fuori. 29.500, ma è una portata in fissa, tu senti? 29.6 per esattezza, 29.6. C'è una portata in fissa, senti, tutti quelli che muovono. Ci sono certi spagnoli che li senti tutti e due in questo ponte qua. Ma veramente guarda, bello, un segnale alla 9.50 arriva. E l'altra legge deve ascoltare, veramente forte arriva. Forse per pagazione della parte delle. Non so perché sa che ci sono questi diavoli di cose di. La bavelletta arriva questo segnale forte sul 29.6 e c'è questo ponte che è una cosa splendida, senti tutto, italiani, spagnoli, che ci parlano, tutto senti, come se c'è prendi una delle accende e senti tutti. È molto frequentato come ponte perché fanno un sacco di. Fa un sacco di la chiamata, poi c'è uno che sembra come lo sembra, parla tutto il cano, fa così, così. Ma guarda, quella portante c'è da tanto tempo, c'è, però sinceramente non ho mai sentito nessuno modulare. Ma adesso senti qualcuno modulare? A questo momento no, però quando mi ho fatto bene stasera, sono state le 5 e mezzo, 6, una cosa del genere l'orario. Se tu ti metti a portare pannoni, c'è questo segnale veramente forte, no, qua arriva 9.50 tondo tondo. Senti, sia uno sia l'altro parlare, però non so come, non so che frequenza sia. Un attimino che devo fare un'operazione al bambino, gli devo inventare una ferita, un attimo. Ehi, d'accordo, avanti, Vittorio, ci sei. Io non c'è più. Già, non ripigliatela. Grotte, e ci sono la Grotte e Grotte. Ehi, ci vuole raccontare lì, ma ho già qualche volta lì. Su 29.600, giusto, torno a fare l'FM, vai. C'è questo ponte che va veramente bene, ma veramente bello. Fa passione ascoltarlo, capito? Appaga, io ci ho ricevuto. Portatini, ma va bene, sembra di ascoltare un VHF per dire come se fosse sul ponte che c'è, non ti posso dire, qua vicino, là. E senti pulito e chiari, una cosa impressionante. Secondo i ponti che ci sono gli arrivano ben forti segnati. Ma prima io ascoltavo molto l'incanazionale, adesso boh, non lo sento più, non capisco il perché. Sembra un incanazionale, per dirla. Perché ascolti spagnoli, qualche francese, e a volte qualche italiano, non da Sardegna, però da fuori. Quindi deve essere un punto beato questo ponte, arrivare a case così di propagazione 9.30, 9.50, allora, a volte arrivava anche 9.60 con dottore, figurati. Da parecchi giorni che lo sento. Ma tu la c'è, non ci metto le mani? Io con che punto ci vado? Con 80, vado su 29.6 e siccome su 29.7 c'è una portante di. Da tempo sarà minimo 3-4 anni di quella cosa dei bambini che si mette nelle camere da letto e arriva 9.50 qua, si capita se qua in zona e quindi girando ho sentito questa cosa qua e mi sono fermato. FM, sì. Direi che qualcosa dei bambini sono sui 29.700 giusti. E fanno anche parecchi chilometri quella cosa. Quelle, come si chiama, i baby... adesso non ricordo. Non ne capito. Quindi si sono messo nella letto. Senti anche quando fanno ciucu ciucu. Sì, sì, ho capito quelle riceviture. Quelle che ti avvisano quando mamma non piange. Esatto, e... Io non è che lo utilizzo al massimo, ascolto qualche cosa, ma non è che lo utilizzo al massimo, dovrebbe essere tutto sintonizzato il mio. Praticamente c'era anche un periodo, vendevano nei negozi quei portatili piccolini da 50 mW su 29.7 NFM, tutti molto venduti. Prima vendevano quelli su 14, allora andavano di voga quei baracchini portatili. Poi avevano fatto qui di FM così, su 29.7, dopodiché sono io nati questi PMR, le PD e a 31.1 sono spariti e sono la prima dubba, sì, questi portatili. Infatti se tutti muovi da zona in zona è pieno di gente che ci parla. Io c'ero. Però non lo so mai. Qua lo usava De Montes per fare il giro di... si metteva l'accordo, vado quello che doveva prendere la patente con l'altro, capito? Due macchine erano, ti facciamo fare il percorso, di fatto di quello cosa li passi qui, poi gira da questa parte, poi gira dall'altra, e dopo facciamo fare il percorso a memoria, così sapeva dove doveva parcheggiare tutto. Ma io lo usavo molto quando si era formato un canale dove c'erano un po' di persone, io, Walter, Vittorio, entrava un tipo di continente, insomma c'erano un po' di persone. E prima lo usavo molto spesso, facendo ogni sera per ascoltare anche per entrare a volte. Era bellino una cosa, solo che poi abbandonano la 27, quello è il problema. E quello l'ho usato anch'io, io usavo gli AESO, il portatile, no, lo standard usavo portatile, parlavo da Pecco Polanga, io parlavo vicino al circolo, parlavo con quello di Genova, che c'era una direttiva 12 elementi, 12 o 15, non ricordo esattamente. Poi ci parlava anche Michele Falcone, eccetera, eccetera. Quando portavo via il corso Vito Emanuele, usavo quel portatile, figurati, tra 6 anni fa. E anche io ci ho parlato il continente con l'antenino piccolo e lui con la direttiva. Esatto, e poi avevo avuto dei problemi di percorso, mi è arrivato un centro di luce, allora me li avevo venduti. E adesso in seguito me li riprendo. E così, riporto un paio di portatili che fanno quella frequenza che ci avevo 5 fatto d'uscita, perché sono belli, per fare antenne e cose così mi stanno bene, o i canali PMR perché, oppure gli LPD, adesso vediamo un pochettino, o cioè, se ci mettono tutti due ancora meglio. Ciao, comunque erano cose belline, si possono usare anche con la presenza della regione 1, sta giù, non sta su, come ho fatto io quando ho piazzato la mia. È quello che devo usare io, una volta per fare la voce, a parte come l'altro giorno, che quell'imbecille gli ha detto, passa, gli ha detto, vai dall'altra parte, ti vuoi portartene, io l'ho acceso, appeso, poi, l'aspetto che mi vado a casa sua, io sono andato con l'imbecille sopra e lui si vuole tirare il capo, lui si è andato a casa sua, allora sono si è passato lui dall'altra parte, e c'era quello che mi accellava, io guardi, devo andare a pigliare mia moglie, si vedi, allora ho preso il tiratore e mi ha fatto il cavo a metà strada. Poi ho fatto così, ho preso, sono andato in garage, ho pigliato la sondina, ci ho tirato a lente, dovevo fare ancora sì, ci mettevo 20 di sondina a lente e ho tirato a fanculo. Poi ho fatto il tirato e ho finito in centro l'antenna. Io ho finito le 4 e mezzo per colpa di quell'imbecille. Se no avrei finito 4 ore appena come minimo. Ma che prendi un attimo che vado in bagno lì? Ya, d'accordo. Dice, rimasto nessuno? con la radio qua. Domenica da di voi ci arrivi subito se si è abituato a scendere a Porto Zappa anche dal golfo c'erano così vizio di mettere quelle canzoni lì. Io adesso ti conosco con la scanchi di giri sempre del golfo. Ma mi sembra c'era qualcuno che voleva entrare, chi era poco fa che ha schicciato? Non sono io maestro, lo stesso. Ben entrata Strada che c'era vera. No, per uscita. Poi Rosino. Ero io qui. L'ultima, mi fanno entrare. Mi sarebbe già entrato. Ho fatto la vittura, ma è riparito. Siamo là, sti sono noi. Gianni. Ciao, Londra. Cappa. Eravamo i soli. Però ce l'ha conti, grondi. Una volta non si è entrato, si voleva fare una cooperazione con un altro pirata, dove era simpatica, dove mi sono detto che si è fatto sa che l'ha ferito con un giorno in ritardo, mi ha detto che l'aveva già ferito e invece ho controllato la traccia che l'aveva portato il giorno dopo. È sempre poco serio quello lì. Io l'ho capito già da una cosa, per due volte gli ho comprato due apparecchi e non mi ha mandato la prima volta la garanzia, vabbè ho lasciato perdere perché l'ho comprato l'apparecchio e non gli ho detto nulla. Questa volta gli ho rimasto l'apparecchio, il telefono, guarda che non c'è la garanzia, né scontrino né nella cosa come te l'ho chiesto io, non è... ho uno scontrino, qualche cosa che mi garantisca, che mi dà la garanzia. No, non ti preoccupare, la garanzia te la diamo lo stesso. Ma le parole volano al vento, perché io voglio le cose, la garanzia, ho uno scontrino, qualche cosa. Ma lo scontrino non te lo posso fare. E oltretutto non mi hanno dato le istruzioni, quello che mi gira più è male quella. Che cosa? Nell'apparecchio quello che c'è in macchina, quello di esportazione. Ma direttore c'è un mezzo di trallazzone, ho capito. È un mezzo di trallazzone, l'ho detto Franco Astore. E lui prende stock di roba e dopodiché, poi immaginate che si stava vendendo anche i propter, quelli che non funzionano. L'aveva scritto su eBay perché sennò lo praticano per i propter. Si vende anche quelli poco funzionanti, però dice siccome non ho voglia di soldati non so che cosa, dice allora ve li vendo una metà, 10 euro che stava per me. Allora ce ne sono un bel difettoso, non è che ti rimando difettoso. Ma per i difettosi che deve mandare, a parte che siamo sempre nella condizione di... No, ma aspetta, noi non stiamo comprando attraverso i figli. Noi non stiamo comprando attraverso i figli, stiamo comprando attraverso... Ehi, vabbè, non gliela tiro a culo, ma poi tu adesso 30 euro. Regalo, ma non è questo, però un po' mi diverto, capito? L'ha presa per i fondelli, non è questa, è 30 euro. Ha chiesto che gli tenevi il microfono, perché questo apparecchio gli dà bene con quel microfono, se no, non me ne avuti lunga. No, ho capito anche se a me la parola, come si dice, quando dice una questione di principio, non mi piace molto, però ti ripeto, questo è di trattori che sicuramente... magari approfittano le persone che dicono vale 30 euro, quando se ne vendono un centinaio non sono più 30 euro, allora non posso più avere persone. Però non mi è piaciuto l'atteggiamento che avevano, gli ho detto, ah vabbè, vorrei fare l'ordine, dice no, siccome non ho voglia di scrivere, non hai voglia di scrivere, ci sentirà mai niente. Ma non voglia scrivere, non vuoi scrivere. Lui voleva tutti i costi e gli scrivevi, perché se no non aveva voglia di scrivere. Un ordine da 100 euro e tu non hai voglia di scrivere, miserabile. Fa una cosa, avete bene di dottorato, se non hai voglia di scrivere non vogliamo anche lavorare. Sì, ma infatti, è che dico la verità, li sta vendendo solo lui adesso. Io non so per quello, io gli ho telefonato e mi ha detto che Porto Franco, che mi ha portato Franco, che cosa se non è facile, io ho detto, però non è sessione, no, io non faccio sessioni, non è nella mia moda, ha detto, fare queste cose, non ci voglio più perdere una lira. Si chiama legge del mercato, cosa lui da fare? Sbaragli la concorrenza acquistando tutto il prodotto e dopodiché puoi fare tu il, quello che vuoi, il prezzo e soprattutto lo sarà potente, capito? Va bene, si troverà perché questo qui è un microfono che ho scoperto io, l'ho portato via Sassari, se la scoprirà qualcun altro. L'ho consigliato io a tutti, ho detto, credo che tu l'abbia preso dopo di me. Sì, sì. Allora io prenderò a te, l'ho preso prima di tutti, poi secondo l'hanno avuto due persone, che le ho consigliato io, poi hanno cominciato a allargarsi tutti, e che bello col microfono, e comunque dove l'hai preso, e io gli davo l'indirizzo via, a chi non so più di lui, ma ci sono molte persone che non ti dicono magari una cosa che è buona, ti vai a chiedere, ti dico, non lo ricordo, che ho preso, ti dici. Chiaro, solo sto scherzando, poi ci mancherebbe, per carità, ma vi rapporto, cioè, secondo me, sapete il concetto che io del baracchino, secondo me non è qualcosa che piace a noi, cioè, anzi, più rudimentale, più retto è, l'apparato è più difficile, perché fondamentalmente pure a me piace essere conservatore, nel senso che l'apparato, il baracchino, nel senso che baracchino, pure un'altra cosa sono gli apparati radioamatoriali, di cui andare in altre cose, quantomeno a fare un radioascolto. Però un baracchino come un baracchino, solo è in situazione lei, soprattutto se ne viene offerto. Vabbè, e ci sono anche baracchini e baracchini. Ci sono baracchini professionali e baracchini da grigio. Ma se non cos'è, cos'è? La gara che cos'è? A chi ha più sciolto? Allora, chi ha più sciolto vince. Che non è una questione di bravura, è una questione di cosa fare, chi ha più sciolto. Allora ti puoi comprare il baracchino più bello del mio, più potente del mio, con l'antenna più potente della mia, e non solo, proprio per non sbagliare, se ha avuto il mio, non faccio fare anche il mio. Vabbè, se devi mostrare, più forte, più degno di maggior rispetto, io credo di no. Poi alla fine il baracchino è a pari di una presenza all'interno di un locale, di un bar dove stiamo parlando, ognuno dice la sua educatamente perché si parla uno alla volta. Vabbè, prendere baracchini professionali ti possono prendere tutti, cioè, se tu hai meno soldi di me lo prendi a macchina, lo prendi come vuoi, come prendi la macchina che costa 21 mila euro, puoi prendere anche un apparato che ne costa 5, non è che sia niente di, se un apparato a 5 mila euro è già che posso dire un marchio 5, costa quella cifra lì, quindi prendere si può prendere tutto, non è che se uno lavora si mette soldi da parte, io lo sai cosa faccio, quando voglio comprare qualcosa di costoso mi metto 100 euro un mese, 100 euro l'altro, 100 euro l'altro e poi faccio il gusto. Yeah, ma io ho visto che credo almeno che tu non abbia altri vizi, perché non ti ho visto fumare e allo stesso tempo c'hai un buon lavoro, ma io ho visto gente e non mi riferisco a nessuno di Sassari perché sto parlando di cose che ho visto fuori quando abitavo a Milano, gente che non si può permettere di sedersi a tavola la mattina, tanto perché per una passione così, ma non per una passione, per farsi vedere più potente di quello che ha a fianco, spendere soldi che non si può neanche permettere, io non ne concepisco queste cose, il baracchino serve principalmente per fare questo, serve comunque per fare convivialità, capito? Ha uno scopo ludico, non deve avere uno scopo di prepotenza. E non tutti lo fanno nella stessa maniera, anche per me è così. Lo scopo del baracchino è quello di socializzare, di farsi un discorso, di scambiare le opinioni, ecco che cosa è un rilassamento. Infatti il problema è questo, che io esca con un Alan 100 Plus, che io esca con un Kimball, che io esca con un altro, che esca con una gaggata, che esca aprendo la finestra di Orlando, cioè, se rimango sempre io, non cambio, capito? E come tale sono al pari di come sto usando il, come si dice, la apparato più potente, non devo essere degno dell'espresso. Invece qua sembra qua, molto spesso, che chi più urla, chi più ha la voce forte, è più degno dell'espresso. Non è così. Non è come le dici, cioè, non è con la potenza con cui dici le cose, è cosa dici. Cioè, realmente la qualità di delle cose che stai dicendo, che secondo me è importante. Poi è una questione di vedute, a me mi piace poi dire anche a me l'apparato che mi piace quando lo guardo, quando è acceso, mi piace vederlo illuminato in quella maniera, mi piace vedere l'apparato che mi piace. Poi vedi, ci sono Lincoln, tutti quegli apparati che escono benissimo, però a me come estetica non mi piacciono. Ma infatti guarda, adesso io non voglio rimettere in ballo una cosa, quando io avevo detto che determinate cose era preferibile non utilizzarle in un canale che era stato preso come riferimento da una certa cosa, era, non voleva essere un'imposizione nei confronti di qualcuno e dire no, tu questo non lo usi, quest'altro non lo usi, al limite era una cortesia che si chiedeva. Cioè, se tu vai nella Mecca e sai che si devono togliere le scarpe, te le togli, se poi non te le vuoi togliere non ti picchia nessuno, però manchi di rispetto forse alle altre persone che sono più piccole di te, in questo caso per quanto riguarda la frequenza, che sono più piccole di te che non si possono permettere quelle cose. Soprattutto chi ti sta ascoltando magari in cucca, che deve abbassare, alzare il volume, ogni volta che parla una persona ne parla un'altra. Allora, se siamo tutti uguali, comunque siamo comunque tutti diversi, perché abbiamo sempre modulazioni diverse, perché se io e tu utilizziamo lo stesso apparato, comunque usciamo diversamente. Allora era la cosa più democratica di questo mondo questa, invece è stata presa come un'imposizione e subito c'è qualcuno, ma io faccio quello che voglio, ma la fai quello che vuoi, ma non è stata capita la cosa. Io cosa ti posso dire? Cioè io non ne sto usando anche quegli apparati lì, mi piacciono anche a me, dico la verità, anche se la vedo una cosa che con gli apparati della 27 non c'entra nulla, la vedo proprio una cosa a parte. Io come ti ho detto, ho avuto uno, l'ho ordinato da Continente, era una bomboletta, ci va benissimo, c'era un microfono nuovo, ci avevo messo due fusibili, quelli trasparenti, quelli grossi, ci avevo alimentato da 50 ampere, però rompevo la scatola, quella di foto ho dovuto dare per quello. Infatti, con gli apparecchi che ho, non disturbo nessuno mi dice nulla, quindi sto tranquillo. E ho cercato di avvicinarmi il più possibile a un apparecchio che mi piaceva, ecco, che esteticamente quando io accendo mi piace vederlo. C'è da dire una cosa, che il K sono sicuramente degli apparati, non parlano di qualcosa di professionale, di un certo livello, e la marca stessa lo dice, in questo caso proprio la marca fa la differenza, perché devono ottenere e mantenere un certo standard. Vero è che ti ripeto, è come avere un Ferrari e farlo correre nelle strade di campagna, cioè cosa ti fai? Se realmente devi rimanere in 27, cioè se ti deve rimanere in 27 e non vuole fare comunque radioascolto o comunque non ha ambizione o velleità di andare in altre frequenze, chiaramente è un contratto di partenza. Non serve a niente, a cosa serve? Tanto guarda, non è che ne esci neanche lì. Ci sono baracchini che al capo lo crema. Sì, secondo cosa ne metti, sì. Ma non è quello il fatto. Il fatto io per dire, quando ce l'avevo lo utilizzavo per fare ascolto. Lo usavo molto per fare ascolto, stavo ore e ore ascoltando. C'erano dei canali dove si sintonizzavano degli amatori e facevano dei discorsi belli su apparecchiature, su questo, su l'altro, non mi interessava, non mi piaceva. Anche se seriosi, perché io la vedo meglio la 27 da quel punto di vista lì, nelle chiacchiere del salotto, eccetera, eccetera, perché io sono solo discorsi seriosi. Io mi ricorderò sempre che questo qui nuovo una volta ha chiesto un controllo ed è stato aggredito addirittura. Questo gli ha detto, non ti permettere più di chiedermi controlli, i controlli se te li devo dare te li do io. Qui non si chiedono controlli. Ma quello era deficiente, era, non era una persona, era un deficiente. Sarò, l'ho detto, ma dove siamo finiti? È quello di Mussolini, che sono gli anche studenti di Strano, ha detto anche che era nuovo, lo chiamo attore, eccetera, eccetera, poi ha chiesto un controllo, probabilmente era un radioamatore proveniente dalla 27, abituato a chiedere un controllo, eccetera, eccetera, l'ha chiesto, ma molto gentilmente, questo proprio l'ha quasi aggredito, gli ha detto, non ti permettere mai più in questa frequenza di chiedere controlli, perché qua non si chiedono controlli, i controlli se li vogliamo dare li diamo noi. Ripeto, non era un radioamatore ma era un deficiente, perché a me capita molte volte, che quando anche l'altro giorno che ho fatto un collegamento in 40 metri, la prima cosa che abbiamo fatto ci siamo scambiati i controlli, perché è normale, specialmente se uno ha montato un'antenna nuova, ha messo l'apparato, qualsiasi cosa, ma anche per capire un attimino come sta andando, ma rientra proprio nelle attività. Quando si parla così come facciamo il 27, o come ti arrivo oggi, ho spostato l'antenna, il piccione è volato più in là, o il gatto sta male, ti chiedo controllo per vedere se è cambiato qualche cosa. Qua, ogni mondo è paese, come ci sono persone idiote in mezzo alla strada, ci sono anche in frequenza, che siano radioamatori o meno, perché siamo esseri umani. Però quelle persone lì sono deficienti, perché non c'è altro termine da dire. Gli è capitato purtroppo la persona sbagliata, perché solitamente se un radioamatore chiede un controllo a un altro radioamatore non c'è nessun problema, c'è lo scambio reciproco del segnale e basta, quindi finisce lì o si inizia e si intavola un discorso o quello che è. Poi ci sono anche quei radioamatori che piace scherzare, giocare, fare come si fa anche in 27, no? Sempre si fanno discorsi seri, per carità. Poi naturalmente se vai adesso in appartamenti ti trovi persone che stanno parlando di apparati, stanno parlando di filtri, chi di antenne o altre cose tecniche. Poi ci sono altri momenti dove trovi gente che proprio gioca, scherza e si piglia in giro l'uno con l'altro perché si conoscono. Però no, ma io solitamente ho sentito gente molto gentile e cose, ma quella volta lì mi ha proprio lasciato il segno, non ho più ascoltato nulla. E toccato se a livello di questo genere, di solito ascoltavo il link nazionale e ascoltavo molto quello di Ozzini, che è una persona veramente squisita, perché non si vergogna di dire le cose che fare, cose, lui dice con naturalezza, lui dice che un contadino che l'altra volta è andato in piazza a Ozzini e cose, è andato a comprare la roba vestito come era la campagna, chi lo vuole accettare lo accetta così, dice non lo vuole accettare la stessa cosa, lui ha detto io sono una persona comune e quando sto lavorando, quando ci vado vestito da lavoro, tutto sporco come sono, compro il pane, compro la roba che lo compro e mi metto a casa. È una persona veramente squisita, cioè molto semplice, molto naturale, pane fino al vino, come si dice, no? Aspetta, io mi passo in quadretti, ci sentiamo domani al limite, statemi bene, buonanotte a tutti e tre. Ciao Alice, dai, con quadretti ci sentiamo domani, sono di loro. A te 80. Ciao Alice, buonanotte. Io volevo dire una cosa, io molto spesso sento parlare, ma poi tutti io stesso lo dico, dell'anzianità in radio, perché uno ha una certa anzianità, dovrebbe dimostrarlo, cioè non è una cosa che serve esclusivamente per vantarsi del fatto che in radio ci sono da 20 anni, beh figarsi, però poi lo dimostri nel modo di fare, nel non breccare, nell'avere un certo tipo di atteggiamento, ma io sto facendo un mea culpa, e dopodiché ti vanti anche di essere 20 anni in radio, ma cosa serve, cosa ti è servito? Io credo che le persone che modulano hanno una grossa responsabilità nei confronti, soprattutto dei neofiti, di quelli che hanno iniziato a modulare da poco, gli devono insegnare come modulare, siccome glielo possono insegnare solamente, o meglio, quelli imparano tramite il radioascolto. Se tu ti comporti maleducato, stai tirando su un'altra persona maleducata. Sì, è così, è così. Purtroppo, ma guarda, ultimamente, perché quei pochi, tra virgolette, nuovi che sono diventati radioamatori, che tutti provengono dalla mono della banda cittadina, in ogni caso sono diversi, ecco. Questi sono vecchi radioamatori che con i paraocchi, parastinchi e paraorecchie, si credevano e si credono tuttora un elite di non so che cosa. Vabbè, ma comunque già si stanno scoprendo anche loro, anche perché con l'avvento dei cellulari, di internet, è scesa veramente tanto la mania della radio. È proprio qualche cosa ricercato, un hobby che quando ti pigliano ti molla più, ma per pochi ultimamente. No, ma una cosa volevo chiedere. Conosco le origini della civile, conosco, credo le conosco anche tu, ma i radioamatori sono più vecchi dei civili o viceversa? Guarda, non c'è distinzione, perché se prendiamo da Guglielmo, ha iniziato come se fosse un CB, non è che il CB è la Citizen Band, praticamente una porzione di frequenza data a livello cittadino, che doveva rimanere entro i confini, che poi noi in Italia è stata convertita in altro, ecco. Per farti un esempio, quel tipo di frequenza veniva, adesso non so se viene ancora utilizzata, dalle forze dell'ordine americane, senza nessun problema. Negli anni 70 veniva usata, infatti lì non c'è neanche la preclusione dell'ascolto radio per quanto riguarda forze dell'ordine e quant'altro. Niente, cioè per me non c'è distinzione, ecco. Io li raggruppo tutti quanti come radioamatori, a prescindere che siano banda cittadina o meno, con il semplice fatto che per usare altre frequenze devi essere autorizzato a fare un esame. Per usare questa frequenza non ce n'è bisogno, devi avere solamente una concessione da parte dell'autorità competente, punto e basta. Però il fatto che uno lo usi in 27, o che lo usi in UHF, o che lo usi in HF, o in 1200, o batte la pesca, è sempre un radioamatore, perché è un amatore della radio, tradotto da italiano. Perciò no, il fatto che io, a me piace modulare anche qua, cioè come me, come Claudio, come Scorpio, come Walter, come altri radioamatori che non rinnegano assolutamente la 27, perché è una frequenza come le altre. Dove si fa radio noi ci siamo, che sia 27, che sia 28, che sia 7 MHz o che sia con riflessione della luna, l'ME, o fare scatter o fare un satellite, non cambia. Il discorso è sempre quello lì: riuscire a trasmettere con le onde radio in qualsiasi modo, in qualsiasi situazione e in qualsiasi frequenza autorizzata. Aspetta, però storicamente la 27 nasce esattamente dopo la seconda guerra mondiale, perché a seguito del fatto che le linee telefoniche erano distrutte, tu hai detto una cosa giustissima, era una frequenza americana. Tanto è vero che nasce appunto dal fatto che gli americani, come spesso capita, per non portarsi indietro quei traigoggi, perché non so se ricordi hai mai visto una di quelle radio da guerra americane della seconda guerra mondiale, erano una specie di telefononi grandissimi, pesantissimi, che avevano lasciato la popolazione, giusto per parlare da un paese all'altro, soprattutto nell'Alta Italia, per parlare da un paese all'altro, proprio perché non esistevano più le linee telefoniche che erano state compromesse, erano state tagliate, bombardate. E quindi i cittadini stessi, le persone che riuscivano a trovare queste radio, riuscivano a connettersi con i paesi vicino, modificando queste radio, che comunque erano sulla frequenza delle 27 MHz. Riuscivano a modificare, nel senso ottenere più canali, perché poi realmente il canale che utilizzavano loro era uno show. Da lì poi è nata la banda cittadina, poi le vicissitudini degli anni 70, il retaggio che ci portiamo dietro ancora oggi, infatti li stiamo discutendo a proposito del fatto che non siamo ancora accettati in 27. No, io volevo sapere appunto se secondo te era nata prima la 27, cioè era nata prima il CB, a seguito di questo riferimento al fatto appunto che gli americani lasciarono queste radio qua, oppure i radioamatori esistevano già dagli anni 30, ancora prima della seconda guerra mondiale? No, è nato prima il radioamatore. Tu ti dai conto che il radioamatore per eccellenza era Marconi, poi subito dopo di lui ne sono nati altri. Se tu giri in rete troverai dei trasmettitori di potenza che per generare le tensioni, per creare potenza in antenna, venivano usati proprio dei veri e propri alternatori dinamo, anzi più che alternatori erano dinamo, no, alternatori erano, ma erano dei motori enormi per creare tensioni elevate per poter trasmettere in potenza. Detta così è nato prima il radioamatore, se vogliamo, poi successivamente, come hai puntualizzato tu, dopo la seconda guerra mondiale, il precursore del CB, il CB è nato subito dopo, verso gli anni 70, 60, perché esistevano già degli apparati che andavano su quelle frequenze, tipo i Geroso, o ancora prima altri apparati di marche nate e morte in pochi anni. Però alla tua domanda la risposta è nato prima il radioamatore. Marconi è colui che ha fatto partire il tutto ed è il radioamatore per eccellenza, il primo radioamatore. Qua ti devo correggere, ma permettilo, non lo dico per presunzione, però anzi questo mi serve, spero, esclusivamente per suscitare la tua curiosità e andare a vedere chi era Nikola Tesla. Nikola Tesla era un ingegnere, un inventore croato che stava lavorando su alcuni progetti, poi leggi la storia, è un po' complessa, quindi da leggervi qua ci vorrebbe una portante di un paio di ore, ma a prescindere da questo, non voglio tediare, ma a prescindere da questo sembra che Marconi abbia rubato l'invenzione della radio proprio dalla sua laboratorio. Lui non la tirò fuori perché lui stava, diciamo che era una componente dell'invenzione finale del Leone Radio, perché lui voleva fare il teletrasporto, voleva inventare, o meglio, sembra che avesse inventato il teletrasporto. Leone Radio era una parte di questa grande invenzione che lui voleva portare avanti, che non ha mai compiuto, e Marconi sembra che avesse scartito questa sua parte di invenzione e ne avesse fatto poi quello che anche noi conosciamo come trasmissione di Leone Radio. Questa storia la conosco anch'io, anche perché con alcune creazioni di Tesla ci ho giocato, e per quello dobbiamo allora prendere in considerazione Meucci con Bell. Però io quello che ti stavo dicendo, colui che proprio ha realizzato, ha fatto funzionare, ha trasmesso e ricevuto, è partito poi il tutto, ed è da Marconi, perciò diciamo che è da lì che poi è nata la radio. Se poi Tesla aveva intuito, aveva creato qualche cosa simile a un trasmettitore, di certo non aveva fatto la prima trasmissione col telegrafo e poi successivamente con la voce, cose che poi sono state fatte da Marconi in poi. No, per quello dobbiamo discutere anche sul fatto che ha inventato il telefono, se tra Bell o Meucci. No, infatti, a conferma di quello che stai dicendo, realmente chi aveva inventato il telefono è stato Meucci, come ben sappiamo, però non avendo soldi, Bell cosa aveva fatto? Aveva carpito al pari di Marconi la sua invenzione e l'aveva messa in pratica. E purtroppo Meucci è morto di fame, e quell'altro che ha fatto i soldi e ha tutt'oggi, almeno fino a poco tempo fa, l'invenzione veniva conosciuta a Bell e non a Meucci stesso. Comunque stiamo lasciando il parcheggio avanti. No, no, io sto ascoltando, non c'è problema. Scoppiato, però, sto ascoltando, non c'è problema. Ma poi, ripeto, purtroppo, quando ho studiato la storia di Nikola Tesla, un po' il mio orgoglio nazionale ha fatto acqua, però purtroppo è così. Purtroppo il vero inventore delle onde radio, quindi di conseguenza del trasmettitore radio, è Nikola Tesla. Mi piace a me, poi se vai a dire che il club dei radioamatori, appunto il club Marconi, se vai a dire una cosa del genere, te ne sono. Bruno, una volta su Facebook mi sono permesso di dire una cosa, di accennare, mi avevano stroncato subito. Chiedono di sembra che vado a far coricare questo drago, se no mi smonta la stazione radio. Avanti, piani doppio rum. Capo, perché tutti sanno che Guglielmo Marconi, quello l'inventore tutto della radio, Nicola Tesla mi pare che le aveva fornito un pezzo non mi ricordo se era un trasmettitore o qualcosa del genere per portare avanti la radio. Beh, non guarda, Nicola Tesla è quello grazie al quale tu hai Marconi a questo fare qualcosa, perché comunque a prescindere dalla dimensione delle onde radio, la corrente alternata l'ha inventata lui. Prima il conto della corrente alternata c'era solo la corrente continua di Edison, tu immaginati che per fornire di elettricità una città si oscurava quasi il cielo, talmente caldo dovevano essere brutti per la corrente continua, perché la corrente continua prevede una dispersione tale che dopo pochi metri si raddoppia una carica di segnale, invece con la corrente alternata puoi diminuire la tensione dei cavi e allungare molto quella che è la portata della trasmissione, diciamo, per quanto riguarda il piattaforma. Appagato. E vabbè, comunque qui non è una questione di punti di vista, il fatto di Nicola Tesla che sia l'inventore, diciamo che un po' tutti e due hanno contribuito all'invenzione. Non vogliamo girare così, purtroppo non è così, purtroppo se lo vai a vedere su internet, gli anni hanno riconosciuto che l'invenzione non era di Bell, purtroppo anche non Marconi, ci sarebbe molto da dire, però questo, come Marconi, stiamo parlando degli anni 30, che era un periodo del fascismo mussoliniano dove per molte cose dovevamo avere di italiani dovevano privilegiare su tutto, si parla uno di destra, però abbiamo fatto degli errori a discapito di altre persone, di altri frettoni. Comunque, io quello che torno alla chiamatura è quello che io non sopporto, io ammiro Massimiliano, Walter, Marco, tutti i radioamatori che entrano qua anche a fare un saluto, perché mi fa piacere, che loro sentano sempre di salutare gli amici, perché di questo si tratta, nel senso che loro hanno sempre amato la radio e sono stati disibiti prima di essere radioamatori, questo lo riconosco. Invece molti altri che sono stati esibiti assolutamente negano il fatto di entrare nella 27, se addirittura a me un radioamatore mi ha detto vai a entrare nel 27, perché a me piace molto di più entrare nel 27 che fare lo diamatore, ma se dovessi entrare lì non tornerei più a fare lo diamatore, capito? Quindi non ci provo nemmeno. Ma tutte queste sono tutte stupidaggini, è al pari di uno che si compra la moto da strada senza aver provato prima la bicicletta. Per arrivare a certi vertici per forza devi fare il gradino numero 1, numero 2, numero 3 e così via. È inutile che fai assalti, perché comunque ti manca esperienza. Allora, per quanto negativa può essere stata, perché poi ci rivolgiamo sempre al passato di 20 anni fa, dove davvero entrare sulla 27 faceva schifo, e tuttora, a detta di Luigi Vulcano, che ha fatto sentire davvero delle cose obriose per quanto riguarda la 27 di alcune città come possono essere Cagliari, dove davvero se ne dicono i colori, ci sono ancora le zuppe che c'erano qua 20 anni fa. Cioè l'esperienza la fai, dopodiché dici vabbè non mi interessa, però non puoi negare che l'hai fatta o che comunque c'è, anche perché fai brutte figure, perché la gente con la memoria che se ne ricorda. Diciamo che va bene, non la pensa con la testa sua, però a me danno fastidio quelle persone che ti fanno sentire inferiori, che non entrano lì perché ci sentono superiori a te, capito? Quello mi dà fastidio. Inferiori poi non so di che cosa, per aver superato un esame, già, è una questione di tempo. Mi sento di me. chiunque si metta, chiunque ne abbia voglia, si metta nella condizione, quell'esame lo passa, non lo passi oggi, non lo passi domani, lo passi dopo domani, è una questione effettivamente di tempo, sempre che una persona non abbia problemi di altro genere, però vorrei anche che sicuramente la seriosità e l'impegno che viene messo con Radio Amatore è completamente diverso, perché stiamo trovando di fronte anche a degli apparati che hanno dei pezzi completamente diversi, sicuramente hai voglia di fare ben altre cose, stare lì a mettere importanti, a dire parolacce o cose del genere. Io credo che poi alla fine la giustizia si sia neanche più così, io non ne credo più di queste cose e questo mi fa piacere. Ma comunque, a me non mi è mai interessato essere radioamatore, insomma nemmeno provato da leggere perché non mi interessa proprio, ho fatto ascolto per vedere come erano i tipi di frequenze, eccetera, eccetera. Ho ascoltato, ci sono solo alcuni diciamo elementi che mi possono garbare, diciamo, proprio tanti altri non. Sono discorsi troppo simili, tante volte per voler svagarti, non puoi fare nulla di qualche video, parlano solo di cose simili, di antenne, di cose, di alimentatori autocostruiti, ne parliamo anche noi, però ogni tanto la cazzata la diciamo, capito? È diverso, perché mi sento più libero in questa frequenza, più libero di esprimermi, di fare. È inutile, io ho sentito gente che è molto educata lì e poi va in altre frequenze, non è così. Non capisco il perché in due frequenze diverse ti comporti diversamente. No, ma sai, io conto poi alla fine credendoci di aver fatto un passo un attimino azzardato, il fatto di aver costituito un'associazione. No, perché secondo me ci credevo e ci credo tuttora che la cosa sia stata fatta un attimino prematuramente, me ne rendo conto, ma ormai è stata fatta e si porta avanti, magari non con la velocità con cui si voleva, con cui pensavo di poterlo fare. Perché purtroppo il 27 c'è gente sicuramente di carattere e caratterialmente persone, e questo di tutti, perché più o meno che abbiamo caratteri meno male, diversi, l'eterogeneità della cosa è la cosa migliore che possa contraddistinguere una nazione, una regione e anche un'associazione. Cioè, se fossimo tutti uguali sarebbe noiosa la cosa, non avremmo da relazionarsi perché ognuno di noi la prenderebbe uguale agli altri. Però quello che voglio dire è questo, quello che non mi è piaciuto, che riscontro con molte persone è incoerente è una cosa che non sopporto, perché a me piace la persona con carattere, con brutto carattere, con carattere diverso dal mio, sono stati riscontri e a me sta bene con le persone, tra l'altro con queste persone io per assurdo ritorno magari non a essere amico, erano di quelle cose un po' come il stress, una volta che lo fai in attesa è difficile che si sia di stress, in attesa magari si allarga, però è sempre comunque rispetto, è sempre forse anche qui, no? Però quello che non sopporto è coerenza a causa di essere tutto. Io quando ti ho detto che tu mi hai detto che una persona come me ti avrebbe fatto comodo, io ti ho dato la mia disponibilità, però ti ho detto queste precise parole. Quando io vedrò qualcosa nascere, forse un po' perché l'esperienza, le cose che mi hanno fatto portare a ragionare così, ho detto se lo ritengo necessario, posso anche fare l'iscrizione, se vedo che è una cosa che va avanti. Però ti do la mia disponibilità in qualsiasi cosa, te l'ho detto tranquillamente, se c'è una calamità, una cosa del genere, tu mi dici mi servono due macchine, mi serve attrezzatura radio, roba del genere, è normale che io sia uno dei primi che ti possa dare appoggio con i miei mezzi. Ma ti guarda, io questo ci sono poche persone che stimo, o che comunque che stimo realmente all'interno della mente, poche. Se devo dire la verità, non vuole essere questa una dichiarazione, però è una di quelle. E io ti ringrazio per questa stima che tu hai, però io mi comporto sempre di conseguenza le cose, cioè preferisco che uno ci rimanga male, però sono sempre coerente con quello che dico, cioè se dico una cosa è quella. Attenzione che io non stimo anche le persone che caratterialmente sono completamente all'opposto, cioè caratterialmente sono una persona ruvide, più diversamente malleabile, però non consentisco assolutamente la falsità, la falsità non va bene, la falsità zero, assolutamente l'incoerenza zero. E purtroppo, uno di questo da un altro, non è che siamo tutti uguali. Io lo sai che cosa c'è di bello, che sono padrona di tutto. Io già una volta ti dico che io questa parola non l'ho sentito perché non ho precisione, però che è una persona realmente che la ragione non sta mai da una parte, la ragione sta difficilmente sta solo da una parte. E dire perdono, no? Io vado in conto a una persona, perché non per forza con una persona si devono decidere di raccontare, però comunque se dipende. Altro è che il cervello si sta difendendo per vita, e allora non può per via, per vita, ma allora non, allora va avanti, allora non, perché per vita c'è un valore aggiunto, per essere falso non lo è. Io capisco una cosa, che diciamo, se vuoi sapere un mio parere, te lo dico chiaramente. Io gli amici della frequenza ho provato a instaurare delle amicizie, delle cose, e ho notato che bene o male ho avuto delle delusioni e preferisco sì avere dei rapporti superficiali, magari trovarsi in casa le sedie, fare una chiacchierata, così va anche bene, ma amici, penso proprio di non riuscire a comunicare, ma ad avere degli amici con la maiuscola, come intendo io. Io diciamo che ho dei sentimenti profondi in certe cose, e poi gli altri potranno dire che sono difettoso, quello che vuoi, però ci tengo in maniera particolare in certe cose, l'amicizia io la vedo con la A maiuscola, sottolineato. Quindi è un rapporto aperto, perché per me il rapporto di amicizia è un rapporto che ha che è tra due persone, gamba, può solamente crescere. Hai detto bene, molto spesso bisogna mantenere i rapporti superficiali, nemmeno come discorsi poi alla fine che molto spesso facciamo, però da quelle persone puoi anche vedere una persona con cui magari si instaura un certo tipo di rapporto e la cosa può, e da lì può nascere realmente una non con tutti, non sono reso conto, purtroppo devo dire io in radio senti una cosa, poi incontri la persona in verticale e ne senti un'altra, ma proprio l'esatto opposto. È un po' difficile, ti ripeto, quello che non sopportano le persone è la pigliatteria e soprattutto l'incoerenza, questo davvero mi fa abbastanza schifo. Ma è la moto che vi amate? Avanti, lasciami, tu vuoi fare l'amante? No, io sono fedele. Mi state sviolinando a vicenda? No, per carità. Rispetto i vostri pensieri, non c'è nessun problema, continuate pure, io qua sto facendo copia e incolla a manetta, vediamo un po' cosa ne esce fuori. Sulinando a vicenda, anzi no, stiamo dicendo contestualmente, reciprocamente, come concetto che abbiamo delle persone della cultura, come gestire i rapporti di amicizia all'interno della società, che Gianni abbia sicuramente delle peculiarità come persona, come uomo, come figlio, caratterialmente, che poi possa essere comunque un amico, questa è una posso dire, Gianni lo conosco da un bel po' di tempo, perché penso sia passato un bel po' di tempo, ma è uno di quelle persone che effettivamente sono sempre state coerenti, ben educate, a modo, rispettose, è sempre stato una persona abbastanza socievole e piacevole anche sia a discutere anche di persona, per carità. Dove si sincero, io lo penso come Gianni, solitamente non ho mai legato con quelli che magari parlo in radio, che possa essere CB o meno, ma per un certo motivo che rimane il bello della del fatto che non vedi chi è davanti, cioè con chi stai parlando, ma è un qualcosa di mistero, ecco, che poi al giorno d'oggi poi ci conosciamo tutti quanti in verticale, per carità, però è un'amicizia radiantistica che esula dal fatto che possa essere un'amicizia nata invece diversamente per la pesca, o l'amicizia nata per altri motivi, o quelle amicizie di vecchia data che ci si conosce come fratelli o come persone in un certo modo. Diciamo che sono diversi modi sociali di approccio o di confronto, ecco, molte volte si mischiano le cose e si rovina tutto. Io anni fa, quando cominciai a modulare, non volevo conoscere nessuno, io non conoscevo nessuno in verticale, tutti a me mi conoscevano in radio, ma in verticale non mi conosceva nessuno, per il semplice motivo che volevo proprio mantenere questa atmosfera che c'è tra i microfoni della radio, dietro la radio diciamo. Ho sempre cercato di non farmi conoscere, eccetera, eccetera. C'era qualche ragazza che mi diceva come ero vestito, dove ero la macchina, deve essere qualcuno, magari gli aveva detto, che magari mi conosceva da prima e cose, gli aveva detto chi ero io, e questa qua mi assillava ogni volta. Ma per dirti, prima io non è che andavo agli appuntamenti e cose dove andavano tutti, gli appuntamenti li davo da ragazza, questo dico la verità, lì se non sa, e quando c'erano ragazze e cose così mi piaceva fare il pappagallo. L'unica persona che conoscevo fino a poco tempo fa, fino a 3 mesi fa, era Alessio Pomponio, ma è già sigla. Comunque, dopo mi sono fatto una specie di esame di cose, ho detto ma perché no? Lo fanno gli altri, non lo posso fare anch'io, cosa ci conosciamo e buonanotte, cosa me ne affutti. E ho cominciato un po' a frequentare, oddio, non sono mai andato a cena e cose del genere, ma frequentare tipo il quadrato, roba così, la mattina, mi fa piacere la domenica mattina, avere un appuntamento quasi fisso, che ci troviamo tutti, ci facciamo una chiacchierata, ma deve essere sempre una cosa buona, non mi piace sinceramente, non mi piacciono queste cose qua, mi piace fare 4 chiacchiere così tranquillo, farci 4 fotografie, ecco, mi fa piacere, però la vedo sempre come una cosa superficiale, poi oddio può avere anche una cosa più profonda, però io nel momento la vedo così, la vedo come una cosa superficiale. Io sono chiaro quando faccio, non è che dico cose che non penso. Se poi uno lo ritengo amico, veramente glielo dimostro e glielo dimostro con tutto il cuore, non è che sia una persona che non riesce a dimostrarlo, lo dimostro e come. Ma comunque, ho avuto anche le mie delusioni, anche in questo campo qua, quindi ci vado un po' con i piedi per terra. Ma guarda che comunque l'idea era proprio quella, a livello di gestione di associazione, cioè quello di fare, di ritrovarsi comunque la domenica anche con la famiglia, capito? Con la propria ragazza, e fare delle gite fuori porta utilizzando comunque sfruttando il fatto che avevamo il barattino all'interno della macchina, potendo, andando a fare ad esempio delle gite archeologiche dove andare a vedere i nuraghi, insomma di bilancio, le cagate qua, e dopodiché finire tutti quanti in agriturismo. E comunque farsi una domenica tra virgolette persone che condividono, che non li chiamo amici, tra persone che condividono le tue stesse passioni, e alla fine ti diverti, farsi una domenica diversa. Non avrei potuto mai farlo, perché mia moglie odia il baracchino. E poi non mi va di mischiare la famiglia con queste cose qua, sì che è una passione mia e me la riesco io e basta, la mia famiglia è dall'altra parte, nel senso che mi piace tenere le due cose separate. Ma perché la vuoi vivere come una cosa tua? Spero non perché vedi all'interno delle persone, la stessa persone così negative da non dover fargli incontrare la tua famiglia, dai. No, non è quello, non è questa di negatività, ma mia moglie non va di frequentare gente al baracchino, non dico la verità, non lo faccio vedere manche in macchina quando io faccio un viaggio e cosa, mi dice no, non accendere, per favore accendi lo stereo, non accendere il baracchino, lo odia proprio, forse perché quando eravamo fidanzati e cose del genere, entravano le tipe, Gianni, guarda che ti voglio conoscere, questa è quella, capito? E lì si cazzava lì, l'ha odiato da lì, ha cominciato a da lì. Io la capisco, nel senso che lui continua una persona allo stesso dramma, nel senso che realmente la cosa non piace, ma perché lei lo odia, perché vede nel baracchino una negazione della sua compagnia, magari avrebbe potuto stare con lei, guardare un film, parlare di quando stai parlando con due tracciori, come no, assolutamente no, perché vabbè, il nostro rapporto è che uno ha i suoi spazi. Ha diritto per dire anche io di guardarsi il film, io gli dico a me piace questo, le sa che a me piace questo, non mi fa problemi. Poi gli spazi per noi insieme li troviamo, non è che ci siano problemi per quello, però non mi ha mai fatto storie perché sto alla radio, non ti dico la verità. Chiaramente Massimiliano scherza a voi nell'appellativo, io stesso mi do, però realmente mi rendo conto anch'io di trascurare un po' la famiglia, comunque la più 5 o l'eventuale 50, ripeto. No, non c'è nessun problema. Ma è quello che vorresti fare tu è stato già provato secoli fa e non ha mai funzionato, per un motivo o per l'altro. No, non potrà mai funzionare. Come dice Gianni, non bisogna mai mischiare l'acqua con il vino, senza togliere nulla né all'acqua né al vino, per carità, giusto per come metafora, come modo di dire. Non possono mai conciliare le due cose. Questo mi dispiace, perché poi realmente non sarebbe così. Sarebbe così, non è tanto la passione del baracchino, però sarebbe qualcosa di conviviale che utilizza, cioè, serve sicuramente per la convivialità del baracchino. Poi non è che ci andiamo a fare una gita di amore a parlare del baracchino, sarebbe il momento dove ne parliamo di meno, dove lo utilizziamo di meno, comunque saremo a diretto contatore, persone con cui parliamo. Però il concetto di associazione per me è questo. Sicuramente mettersi a disposizione della società per fare i servizi, cos'è il genere, sarebbe stato un modo molto importante, però il fatto di far passare la propria famiglia una domenica diversa. sta sicuramente non insegnando. Anche perché Gianni ha il ricordo, come sempre, della gente che ha buona parte, diciamo, popola la mente, o popolava la mente, popolava, non popola, perché credo che ci siano rimasti solo per promessi. 20 anni fa non era così, in Italia ce n'era parecchio. Veramente tanto, ho fatto in un anno, ho fatto quasi 9 anni e poi si finisce sempre allo stesso modo, sempre, perciò una volta che la provi una volta sai com'è e basta, finisce lì il discorso. No, qua, condivido quello che il pensiero di Gianni, un conto è la radio, però poi la famiglia è un'altra cosa. Altre priorità, altre situazioni, no, assolutamente, no. Sono due cose nettamente separate. Guarda, noi con mia moglie avevamo la stessa passione, io avevo creato una chat con un'amica, entravamo tutti in questa chat che si chiama Sassari Online, e abbiamo organizzato molti incontri, molte cene, dei chatters, ne abbiamo fatto parecchi, ne abbiamo fatto a Milano 26, ne abbiamo fatto a Sorso, a Fiorentina, ne abbiamo fatto a Porto Torres, insomma ne abbiamo fatto parecchi di queste cene qua. E in queste cene venivano anche gente da Milano, da Torino, da Cagliari, un po' da tutte le parti. E ti dirò che sono state delle belle cose, però ci sono state anche dei disguidi. Una volta mi ricordo che c'era questa estra comunitaria e c'era questo milanese che praticamente era un bossiano, un verde, diciamo. Poi si sono attaccati malamente, guarda, io ne avevo faccia in terra perché ero il moderatore, ho detto qua non vi posso bannare, ma cazzo, a un certo punto gli ho detto qua siamo una cena di tre amici, facciamo l'unica volta che c'è stato quel problema lì. Perché questa qua era di colore diverso politico e quindi si sono attaccati malamente, ma qua, ma là, bomba, mi eri simpatico, gli ho detto ma mi sei diventato sempre più antipatico, e ci sono rimasto così, sangue freddo, cioè, noi stavamo facendo, sai cosa facevamo? Col telefonino, da mezzo alle gambe ci passavamo i messaggini con le amiche, capito? Ma infatti guarda, non bisogna parlare mai né di politica né di religione, se lei si vuole andare d'accordo con le persone. Parli di cose frivole, di cose, come hai detto tu, leggere, e vai l'amore d'accordo. Quello lì mia moglie mi appoggiava all'inizio era stata sempre una lotta perché stavo al computer anche sino alle 3 di mattina, mi avevo creato delle amicizie anche femminili. Dico la verità, però solo amicizie, dai, amicizie molto intense, ma amicizie. E niente, poi ha scoperto anche il computer e ha cominciato a piacergli. Eravamo nella stessa città dove ci siamo trovati bene per molto tempo, era di MSN, adesso non ci sono più le chat. Un po' loro entrano su Facebook, ma io ci sono anch'io, ma c'entro poco. Non è più come prima ero proprio appassionato, avevo conosciuto. E quella cosa più strana che mi ha fatto mia moglie, la volete sapere? Allora, per 2 anni mi ha fregato. Ha fatto, ho capito, ho già capito. È un classico, è caduto a via pari. Allora, per 2 anni lei andava a chattare a casa di questa amica che c'è anche abita di fronte a casa, mi faceva credere di parlare con una persona che io poi ritenevo molto amica, questa qui mi faceva ridere, mi faceva, cioè caratterialmente mi piaceva, capito? mi faccia associare le risate, alla fine un giorno mi ha dato il numero di telefono, mi ha detto telefonami così almeno ci facciamo una chiacchierata, così mi sono messo a chiamarla, cosa, ha camuffato la voce, mi ha fatto credere che era bolognese, eccetera, eccetera, diceva sorbole, come dicono lì in quelle zone lì. Mi faceva pisciare dalle risate, tornavo a casa con l'orecchio rosso, poi lì subito entravo in casa quando sapeva che dovevo rientrare. E diceva già, perché c'è l'orecchio così rosso? Che è abbastanza, mi prendeva per il culo pure. Capito? E vabbè, comunque anche se in qualche modo adesso tua moglie che è innamorata di questa persona, comunque è innamorata di te. No, la cosa più bella è che lei mi ha chiesto questa, vabbè, quella che doveva essere l'amica mia, mi ha detto che alla fine mi ha detto che voleva un incontro con me e che voleva fare l'amore con me. E io ho detto, bella mia, tu non lo sai che io sono un uomo sposato e cose del genere. E da lì mia moglie ha compreso il due tutto. Ia, scusatemi un attimino, sono in coerenza che sto finendo di chiedere una cosa. E prendi una serie. Avessi sgarrato lì, guai. Si è giocato il matrimonio lì. Passarola. Tante volte se le seri conviene. Eh beh, il minimo. No, ma guarda cosa arrivano le donne. Tanto fa la voce al punto tale che non la riconoscevo. Comunque... Canta bene. Sarò la proprio giocato. Beh, io non lo so che quando poi... Poi la cosa più bella è che magari accendevi il computer la mattina alle 7:30 così quando andavo a lavorare e ti trovavo il messaggino, buongiorno Gianni, come va? Hai dormito bene? Non so, e ti faceva piacere, no? Ed era lì che lo faceva dalla notte, quando mi hanno andato a letto e tu andavi al massaggio e poi via. Abbastanza acuta tua moglie. E dove arriva la donna non arriva il maschio e non ha mai sbagliato parlando, cosa ti posso dire, non ha mai sbagliato di una grinza, niente, quello che poi anche alla fine se ne rideva. Poi comunque una cosa, sono contento che abbiano capito veramente chi sono, se vuole con la scultura l'hanno capito. E dice che non l'ha fatto per mettermi alla prova, mi voleva fare uno scherzo, poi ha visto che lo scherzando aveva voluto continuare, solo che un po' una cattiveria l'ha fatta. Vabbè, insomma, ti ha messo alla prova. No, la cattiveria più brutta è che io credevo di avere una vera amica e poi mi sono reso conto che lei infatti mi ha detto... Vedi, ti divertivi, ti fidavi, ce l'avevi vicino, non te ne eri accorto. E appunto, quello è giusto, eh. Hai scoperto, diciamo, un altro lato. E magari lei pensava che io non l'avessi scoperto, ma forse si voleva rassicurare qualche cosa, non lo so, però... In effetti a me è rimasto un segno brutto, infatti il computer dopo quella volta lì l'ho mollato di brutto, una specie di delusione, no? Perché pensi di avere un'amica a cui ti è, a cui ti puoi fidare, cose, poi di colpo scopri che non esiste. Che non esiste, no, esiste, anzi, ce l'avevi a fianco. Sì, vabbè, che non esiste... Oltre la persona a caffè perché non esiste un'amica, ecco quello che volevo dire. Vabbè, comunque, una cosa fatta molto bene, ha durato troppo però, e io l'ho detto, diceva vabbè io volevo morare, ma non sapevo come fare, cioè, perché poi vedevo che tu ti divertivi e cose, mi faceva piacere, quindi non volevo, quindi corpo scomparsa, mi scrivevo e niente, ci rimane un bel merda. Dice, ma come mai, cosa gli ho fatto? Non gli ho fatto niente di male. E niente. E poi ho immaginato che magari fosse perché avevo rifiutato di andare a trovarla. Lui voleva che io andasse a Bologna, questo e quell'altro. Mi ha detto, va, anche se si è sposato fa bene avere, diciamo, con la sua persona per confrontare, per fare, mi fanno, non mi convinci, io intervengo solo un'amica, appunto, insomma proprio fermo. Meno male, meno male per te. Però, Mattarello, Puglia. Ma questa non sente sempre la musica sotto, non limite. Se c'è anche uno o che usa qualche ripetitore strano, se tu la senti sottofondo. Poi un'altra volta mi è capitata una cosa strana, trovavamo tutti e due al computer, con lo stesso computer l'avevamo seduti a fianco. Stavamo leggendo il collo, a un certo punto io come sono stanco, mi sono sdraiato nel lettino e mi sono addormentato. Non conoscevo questo lato di me e comincio a dire il nome di una commessa che lavora da noi. E alla fine si è avvicinata mia moglie e mi ha detto, io sono addormentato. Mi ha detto, ma ti piace questa ragazza? E ho detto, sì, una bella ragazza. Se mai c'è stato qualche cosa tra di loro, ho detto, ti pare che io mi sputtano nel posto di lavoro? La mattina quando mi alzo me la trovo con le braccia fianchi. Allora come sarebbe questa cosa? Se non ti vuoi sputtare nel posto di lavoro, solo per quello l'ho fatto. Devi stare attento con tua moglie, eh? Ma ti pare che risposte da addormentato? Ti ha ipnotizzato, tia. Vabbè, dai, che è ora. Ci sentiamo, ciao Gianni, alla prossima. Ciao, ci vediamo, buonanotte, ci sentiamo. Però ancora ci sentiamo.